Vabbè, io ringrazio ovviamente Sergio per la voce stentorea con cui ha dato l'inizio, ma noi capiamo, intanto iniziamo a parlare, abbiamo fatto abbassare la musica e poi piano piano, di birra in birra, speriamo di interessare tutte le persone che sono venute qui questa sera per la seconda serata di Bridge Festival. Ieri sera ci siamo divertiti, credo che siamo, insomma, io sono andato a casa in albergo, in realtà molto, molto contento della risposta, dello scambio, delle cose che ci siamo detti ieri sera e quindi spero che questa sera potremmo avere una serata altrettanto piacevole e ne sono sicuro perché Federico Neirotti che è qui questa sera con noi, lo leggo, lo seguo. E insomma, vedo le cose che fa da molto tempo. Da quello che ho sbirciato dalle slide, si presenterà lui. Quindi mi evita di fare una presentazione che sarebbe comunque ingenerosa. Ma questa sera ci ha portato, un intervento che si intitola Come ordinare la tua città su Amazon. Che da quello che ho capito, ma anche per me è una sorpresa quello che si farà. E che dirà Federico questa sera, però mi sembra una sorta di scongiuro, ecco, un rito, anzi un gesto apotropaico, un classico, come dire, toccare legno, battere ferro a seconda delle tradizioni, perché appunto non dovremmo imparare da Amazon, Deliveroo, Instagram come amministrare le nostre città. Io la faccio molto breve, lascio la parola a Federico e vi auguro una buona serata e vi ringrazio ancora tutti e a tutti per essere qui questa sera. Buonasera a tutti, io sono Federico e allora, prima di cominciare devo fare due premesse. La prima è che poi se sono meriti o colpe lo scopriamo dopo, però i miei meriti per l'intervento di questa sera non sono pochi perché il mio intervento è completamente ispirato a questo libro di cui appunto parlerò, che io ho tradotto il titolo in Come ordinare la tua città su Amazon, letteralmente sarebbe come gestire la tua città come Amazon e altre favole. Ed è un libro che è stato pubblicato pochi mesi fa in Inghilterra e che raccoglie fondamentalmente 38 racconti o 38 saggi distopici, per così dire, in cui 38 tra accademici, ricercatori, eccetera, si sono immaginati delle scene in delle sorte di città, però con diciamo il twist che queste città sono amministrate come se fossero gestite da una delle grosse piattaforme digitali che tutti conosciamo. Io credo che chiunque di noi in sala abbia usato almeno una volta Amazon. Mi stupirei. Lei no. Perché? Ok. Beh, Facebook. Ok, perfetto. La seconda premessa, ma questo semplicemente perché sono molto fiero di questa cosa, a me piacciono molto le slide che ho fatto, però purtroppo non sono, cioè, non sono mie, io ho semplicemente messo il testo. Ciò detto, cominciamo. Di cosa parliamo oggi? Giusto per dare un'introduzione generale. Allora, prima di tutto, che cos'è questa cosa? Dirò ancora qualche parola in più. In secondo luogo, chi sono io, ovvero perché sono qua a parlarvi, in che veste fondamentalmente, di che cosa parla il libro, perché il libro ci interessa e poi riassumerò un paio, tre storie dal libro che mi sono particolarmente piaciute e poi diciamo collegherò queste tre storie a, non mi sembra giusto chiamarla una chiamata alle armi, però mi piace chiamarla chiamata alle armi, nella misura in cui il mio modo di immaginarmi una via d'uscita da uno stato di disagio che io sento parecchio e che è anche molto collegato alle distopie raccontate nel libro. Il momento storico che viviamo, forse, almeno secondo me, non è dei più brillanti, mettiamola così, e almeno per me non è sempre facile immaginarmi una via d'uscita da questo momento storico poco brillante, però secondo me va anche trovato una sorta di metodo per capire come uscirne. Prima di tutto, come dicevo, questa è la presentazione di un libro, formalmente, pardon. Il libro si chiama Autorun a City Like Amazon, racconta queste storie di città, appunto, attraverso le lenti di aziende come Deliveroo, che fa consegne di cibo, Airbnb, che ti permette di affittare camere per brevi periodi di tempo, ma anche attraverso la lente di piattaforme che magari noi non utilizziamo direttamente. Per esempio, la prima storia di questo libro è la storia di una città gestita attraverso la lente di una grossa azienda, che probabilmente nessuno di noi conosce, che si chiama Hachxiom. Hachxiom è un titano del mondo digitale perché fondamentalmente si occupa di comprare da tutti i siti internet che noi utilizziamo, si può parlare di Facebook, di Instagram, eccetera, i dati che noi cediamo. Quando noi ci iscriviamo a Facebook banalmente e facciamo la classica cosa dell'accettare i termini e le condizioni d'uso, Facebook acquisisce la nostra età, acquisisce la nostra città di provenienza e via dicendo. Un'azienda come Hachxiom si occupa di pagare delle somme gigantesche a Facebook per dire: guarda, a me non interessa il nome e cognome di questa persona, mi interessa però sapere che ne so, a Senigallia ci sono 1525 anni. Dico a caso. Aziende come queste fanno parte di una grossa fetta dei racconti presenti all'interno di questo libro. E questa fetta di racconti è particolarmente importante perché va a raccontare, letteralmente, una parte del mondo che noi oggi viviamo che è invisibile, ma che di fatto, regola le nostre vite. Regola le nostre vite online, ma anche offline. Perché faccio l'esempio di Amazon. Quando noi ordiniamo un qualsiasi prodotto su Amazon, l'impatto che Amazon ha sulla nostra vita non si ferma semplicemente alla possibilità di acquistare quell'oggetto su un sito internet, perché Amazon, con la sua presenza capillare in tutto il mondo, per esempio, crea un'infrastruttura di consegne gigantesca e permette, in senso positivo, alle volte di dare lavoro a centinaia di persone, perché improvvisamente si crea un volume di consegne gigantesco che prima non esisteva, ma allo stesso tempo Amazon in quel momento lì diventa letteralmente padrona di una quantità di lavoratori che prima non esistevano, e lo stesso vale per esempio per aziende come Deliveroo. Deliveroo forse, assieme alle altre aziende di food delivery, racconta molto meglio questo fenomeno, ovvero un'azienda digitale che crea un mercato del lavoro che ha parecchie complessità. Ecco, aggiungo. Il libro qua in forma cartacea, però se vi interessa e inquadrate questo quadratino qua, che è un QR code, potete scaricarlo gratuitamente perché il libro è offerto gratuitamente. Ci parlo sopra un secondo, così eventualmente se qualcuno vuole scaricarlo può farlo, poi cambierò slide. Il taglio interessante, secondo me, è la capacità che questo libro ha di rendere visibili le dinamiche, di queste grosse aziende, cristallizzandola all'interno del racconto di una città. Tutta questa cosa che ho detto relativa a Hachxiom, che compra i dati da Facebook e che poi li rivende, eccetera, eccetera, può essere chiara fino a un certo punto. Se però la metto all'interno del racconto della vita quotidiana di una città, di un cittadino, a quel punto lì quel tipo di dinamiche possono diventare non soltanto più interessanti, perché onestamente di seguire un percorso che la mia data di nascita fa da Facebook fino a finire in mano a quell'azienda lì è abbastanza noioso. Però se a un certo punto mi chiedo che impatto potrebbe avere la vita nella vita di un cittadino, vivere in una città completamente regolata dalla compravendita di dati, dati che sono in un certo senso incontrovertibili, non c'è più il classico errore burocratico all'italiana, perché la città si basa sull'empirismo, sulla possibilità di verificare incontrovertibilmente dei dati presenti nella città. Vado avanti sulla slide, poi se qualcuno vuole ancora scaricarlo, ci torno dopo. Dunque, la domanda principale da cui parte il libro è una, e rimane la stessa per tutto il libro, e rimarrà la stessa per tutta la durata di questa presentazione. Ovvero, questo libro si chiede: le città dovrebbero essere amministrate come aziende? Cioè, una città funzionerebbe meglio se a una data città venisse applicato un modello di gestione simile a quello di un'azienda? Questa domanda viene formulata nell'introduzione del libro ed è ispirata a un discorso che viene pronunciato da due persone che non sono proprio dei signori nessuno. Gli autori del libro, che sono degli accademici inglesi, hanno recuperato delle dichiarazioni di Stephen Goldsmith e Neil Kleeman. Il primo, in particolare, è il vice sindaco di New York, il quale ha detto, e per me è una frase abbastanza incisiva, che lo dica il vice sindaco di New York, che le città dovrebbero comportarsi di più come Amazon per servire meglio i loro cittadini. E l'esempio ovviamente non guarda al fatto che, insomma, non stiamo parlando di una città che dovrebbe cominciare a fare delle consegne. Stiamo parlando di una città che dovrebbe imitare letteralmente l'azienda che in questo momento è l'azienda che più fattura al mondo, che è gestita dall'uomo più ricco del mondo. E questo assunto per me è sbagliato, secondo me no, questo lo dichiaro subito ed è la stessa premessa del libro. Le città non dovrebbero essere amministrate come aziende. Ad alcuni può sembrare una conclusione ovvia, ad altri può sembrare una conclusione completamente non interessante perché magari è molto distante dalle loro vite. La realtà però è che, ah no, prima, perdono. La realtà però è che questa conclusione sta venendo discussa, cioè le amministrazioni delle città di tutto il mondo, prima ovviamente le città ad alta rendita di capitale e dopodiché a macchia d'olio anche tutte le altre, stanno ragionando in questi termini e si stanno chiedendo in che modo poter applicare dei modelli di gestione che sono quelli di un'azienda al tessuto cittadino. Tra poco vediamo in che modo. Prima di continuare faccio una brevissima introduzione su chi sono io. Io sono Federico Neirotti e tecnicamente all'italiana sono uno scrittore, non scrivo libri, però è la traduzione letterale di quello che in inglese verrebbe definito writer, ovvero letteralmente quello che scrive qualcosa da qualche parte ma non ha il tesserino da giornalista, perché formalmente non posso definirmi un giornalista. Però mi definisco in questo modo perché ho lavorato per 4 anni all'interno della redazione di Motherboard, che è un magazine di scienza e tecnologia che fa parte del gruppo Vice qui in Italia, e oggi lavoro per un'associazione culturale che si chiama Chefare, e che si occupa di lavorare insieme ad altre organizzazioni culturali per cercare di capire fondamentalmente in che modo poter gestire al meglio le risorse pochissime che arrivano alla cultura oggigiorno senza dover necessariamente passare da modelli di fare cultura che afferiscono a una cultura estremamente tradizionale e in un certo senso un po' antica. Un paio di premesse. Prima di tutto cosa so fare, perché ci sono anche una serie di cose di cui io non saprò parlare durante questa presentazione. Posso parlare tranquillamente di cosa sono, come funzionano e che ruolo hanno oggi le aziende digitali nel mondo online e nel mondo fisico, quindi cosa fa Amazon su internet e viceversa, anzi dall'altro lato, qual è l'impatto che il lavoro che Amazon fa su internet ha davvero nel mondo reale. E posso parlare del rapporto che c'è tra la tecnologia, perché di questo stiamo parlando, e la politica. Invece non posso parlare in nessun modo di urbanistica e di città. Questa presentazione parlando di città parla necessariamente anche di urbanistica, ma io non ho le conoscenze per parlare di questo argomento e tutte le mie conoscenze derivano da quello che c'è scritto all'interno di questo libro. Se si parla di urbanistica e di città, a un certo punto, se il discorso deve essere serio, devo parlare anche di legge, e non è un discorso che io posso fare. E infine, e questo è un grosso rischio, e chiedo a Flavio di darmi una mano, non so seguire una, quindi io non so seguire una scaletta nella misura in cui il rischio è che mi fermi per 10 minuti su una slide e che a un certo punto diventi anche parecchio noioso, quindi infatti, non, fermami, non, sì, non c'è problema. Anche voi, per favore, non. No, no, no. Allora, cominciamo subito in medias res, come si suol dire. Se parliamo di città e di tecnologia, e se ci poniamo la domanda, dovremmo gestire le città come delle aziende, quello di cui stiamo parlando è l'estrattivismo, fondamentalmente. Stiamo parlando di pratiche di estrattivismo. Stiamo cercando quindi di capire in che modo estrarre risorse da un giacimento. Quali siano le risorse, quale sia il giacimento, questa cosa cambia da discorso a discorso. Però quando si parla di estrattivismo stiamo cercando di capire qual è la risorsa che ne stiamo estraendo e soprattutto qual è fisicamente o anche virtualmente il luogo da cui andiamo a estrarre questa risorsa. Nel caso di questo libro, queste 38 storie parlano di qualcosa di molto specifico. Parlano di estrattivismo nel mondo delle città, operato da aziende tecnologiche. La risorsa in questo caso sono i dati, ovvero le informazioni che le persone cedono al resto del mondo, e il giacimento sono letteralmente gli esseri umani, ovvero questi dati vengono prodotti dalla vita degli esseri umani all'interno delle città. La tesi di fondo è questa. Io parlo di estrattivismo e parlo di dati per questo motivo qua. Se io acquisisco l'abilità di misurare uno qualsiasi di questi dati, faccio un esempio banale. Quante volte, mettiamo caso che io viva a Senigallia, quante volte io, Federico, con la mia macchina, parcheggio a Senigallia e in secondo luogo in che punto della città parcheggio? Se il comune di Senigallia acquisisce l'abilità di poter misurare puntualmente questi due dati, a un certo punto può anche porsi una domanda abbastanza legittima, ovvero può dire, diamine, però se io sono in grado di conoscere puntualmente queste informazioni non soltanto su Federico, ma su tutti gli abitanti di Senigallia, perché non trovo un modo per farci due soldi? Questi due soldi poi ovviamente può significare far pagare qualcosa al cittadino o vendere questa informazione a qualcun altro, però la questione di fondo è, io devo imparare a misurare qualcosa, perché se io so misurarla, a quel punto lì, quel dato misurato può diventare un prodotto vendibile, banalmente. Questa premessa teorica è sintetizzata da un trend abbastanza dilagante ultimamente, ormai paradossalmente un po' vecchiotto. Questo è da un sacco di tempo, però negli ultimi 10 anni non si fa altro che parlare di smart city, ovvero di città intelligenti. Il punto è fondamentalmente cercare di inserire letteralmente dei sensori all'interno delle città per misurare quello che succede all'interno di una città. Un esempio banalissimo di applicazione della smart city è quando io devo gestire il sistema di semafori di una città, ci sono delle città che installano dei sensori di pressione in determinati punti delle strade, di modo che se io so dove c'è una macchina o dove non c'è, posso gestire in maniera più fluida il sistema dei semafori. Il fatto di installare questa piattaforma, questo sensore a pressione, non mi permette soltanto di cercare di darmi uno strumento in più per fare la famosa onda verde con i semafori e trovare sempre verde, ma mi permette anche di capire in quali punti della città c'è più traffico e in quali punti c'è meno traffico. Prendiamo questo esempio, pensiamo a qualunque aspetto della nostra vita quotidiana nella città, può essere a che ora usciamo di casa, dove andiamo a prendere il caffè, quanto tempo ci mettiamo ad andare a lavoro o ad andare al cinema e via dicendo, e consideriamo il fatto che tutti coloro che parlano di smart city parlano del tentativo di misurare ogni aspetto della nostra vita all'interno di una città. Poi il come lo si fa in mille modi, però l'idea è questa: se io posso misurare qualcosa, lo posso anche efficientare, posso fare in modo che quel qualcosa funzioni un po' meglio all'interno della città. E dopodiché posso anche riuscire, sperabilmente, dal punto di vista di una data città, posso anche riuscire a vendere quella determinata informazione. Questo concetto è stato venduto parecchio, fondamentalmente. È un qualcosa che è stato venduto anche quando la tecnologia non era all'altezza per poter, asservire al compito, al mandato di una smart city. Quindi fondamentalmente, per farla molto breve, un sacco di persone interessate a capitalizzare su questo tipo di tematica sono andate in giro per il mondo a dire: guardate, io ne so un sacco di smart city, la tua città potrebbe funzionare meglio, sindaco di Senigallia, se adottasse questa misura o quest'altra. Secondo gli autori del libro, quando una città diventa smart, ovvero quando installiamo questi strumenti tecnologici che ci permettono di efficientare e misurare quello che succede all'interno di una città, succede una cosa interessante. Ovvero, la gestione di una città, qua cito direttamente, passa dall'essere una burocrazia che serve ai cittadini, poiché questa burocrazia funzioni bene o male ne parliamo, però passa dall'essere una burocrazia che serve i cittadini per il bene comune ad una tecnocrazia che adotta business model e pratiche per servire clienti individuali. Cosa significa? Prima di tutto il passaggio da burocrazia a tecnocrazia. Se il funzionamento, il bel funzionamento di una città si basa su degli strumenti tecnologici, a quel punto lì la corsa è quella ad avere lo strumento tecnologico migliore, fondamentalmente. Il sensore più sensibile, la telecamera che mi permette di intercettare quante più persone possibili con il minor numero di telecamere, e via dicendo, fondamentalmente. Allo stesso tempo, però, se il mandato di questi strumenti è misurare, a quel punto lì, un po' anche naturalmente, lo scopo principale di questi strumenti non è più soltanto il migliorare il funzionamento di una città, ma è anche individuare dei possibili clienti per queste funzioni. Nella città tendenzialmente il cliente dovrebbe essere sempre il cittadino, però se io, per esempio, se io decido che a Senigallia il prossimo investimento urbanistico di Senigallia deve essere creare una rete di sensori per il traffico tecnologicamente perfetta, a quel punto lì si arriva a un certo punto in cui il livello di sofisticazione di questo sistema è eccessivo per i cittadini, perché forse non abbiamo bisogno di avere questo sistema perfetto che ci descrive il traffico a Senigallia, però magari diventa molto interessante per un'azienda. Quindi la città di Senigallia comincia a dire, diamine, però mi conviene molto di più sviluppare questo sistema se poi posso venderlo a questo cliente. E se la città di Senigallia deve diventare una sorta di laboratorio permanente per questo tipo di sistema qua, tanto meglio, tanto sto semplicemente misurando il traffico, non sto mica facendo nulla di male. Per cui, in una città che funziona come un'azienda, la fornitura di servizi, come per esempio, in questo caso il servizio dovrebbe essere garantire che a Senigallia non ci siano sempre dei colli di bottiglia nel traffico, e l'infrastruttura essenziale per garantire questi tipi di servizi è trasferita dal circuito pubblico a quello privato. Lentamente diventa un affare, appunto, di privati e non più di entità pubbliche. La città non è più un luogo che permette al mercato di funzionare, ma diventa lei stessa una collezione di mercati. Torno al ragionamento di prima, se tutta questa filiera può valere per il traffico, pensiamola a qualunque altro aspetto della nostra vita. La nostra vita all'interno di una città diventa una collezione di momenti che possono essere misurati, che possono essere anche in senso positivo resi più efficienti, più fluidi, più piacevoli, eccetera, eccetera. Ma primariamente diventano tutta una serie di aspetti della nostra vita che possono essere misurati, descritti in un determinato modo e venduti a qualcuno che è interessato a misurare quel determinato dato. Faccio un esempio banale, di nuovo. Se io riuscissi a trovare un modo per misurare a poca spesa quante volte le persone vanno al bar a prendere il caffè in un'intera regione d'Italia, probabilmente quell'informazione potrebbe essere di interesse a Starbucks, che magari sta facendo un'indagine di mercato per cercare di capire dove aprire il prossimo punto vendita. Io ovviamente quella cosa lì la posso fare andando singolarmente davanti a tutti i bar e dicendo, ascolta, ma lei quante volte va a prendere il caffè? Oppure posso trovare un'altra scorciatoia. Per esempio, posso contribuire a sviluppare un sistema magari di videosorveglianza urbana, che serve a tutte altre funzioni, alla sicurezza cittadina, al traffico, eccetera, eccetera, però posso contribuire ad aggiungere alle funzioni di questo sistema di videosorveglianza anche il monitoraggio degli spostamenti delle persone. Posso chiedere alla telecamera di misurare quante volte delle persone entrano in quel dato bar. Se lo faccio con tutte le telecamere urbane di una regione, il risultato poi alla fine è un numero che per qualcuno, per un'azienda privata, è interessante. E da dove arriva tutto questo concetto della Smart City? Sempre per gli autori del libro. Arriva nel momento in cui all'interno delle città moderne, diciamo, c'è una liberalizzazione del mercato di gestione della città. Si adotta un approccio di cosiddetto neoliberalismo urbano, ovvero si passa da una condizione di managerialità della città a una condizione di imprenditorialità della città. Se io sono un manager, la città ce l'ho e io la devo fondamentalmente gestire. Devo capire dove mettere i pezzi e farla funzionare al meglio delle sue funzioni. Se io invece sono un imprenditore, guardo il sistema città e il mio scopo è cercare di farlo rendere al meglio, qualunque sia il significato di farlo rendere. Posso decidere che farlo rendere al meglio significa che una data città produce più utili, banalmente, cioè mi arrivano più investimenti esterni sulla città e quindi significa che funziona meglio, oppure al contrario, sperabilmente, il miglior funzionamento di una città può essere dato dalla soddisfazione o dal benessere dei cittadini. Cominciare però a pensare alle città in termini di impresa, ci pone questa domanda, ovvero in che modo misuriamo il funzionamento, buono di questa impresa. Questa narrativa riesce a inserirsi all'interno di diverse amministrazioni cittadine perché tendenzialmente, questa è una tesi degli autori del libro, che però insomma, trovo un riscontro anche nella narrazione perlomeno recente della politica italiana, tendenzialmente la destra ci dice che l'amministrazione pubblica non è efficiente. Se non funziona male, è semplicemente poco efficiente. E che è poco efficiente per un motivo anche comprensibile, ovvero in un mondo crescentemente complesso abbiamo bisogno di sempre più conoscenze per poter capire come funziona un mondo complesso e gestirlo di conseguenza. Il pubblico, il mondo del pubblico, non ha, diciamo, gli strumenti necessari per ottenere queste conoscenze o per gestirle al meglio, quindi per cui la soluzione migliore è dare in pasto questo tipo di necessità al mito del libero mercato. Se io consegno questa necessità al libero mercato, il libero mercato, facendosi una competizione anche sana, costante, produrrà alla fine un metodo migliore di gestione della città, più efficiente, maggiormente in grado di interagire con le complessità di una città. Penso a una rete di città, magari maggiormente di provincia, ma penso anche a grosse città. Ci sono mille tipi di città, guardando anche solo all'Italia. Io, per esempio, sono originario di Torino, adesso vivo a Milano, e Torino e Milano non sono così diverse sulla carta, però poi a viverci dentro, cioè, sono due città completamente diverse che dovrebbero essere gestite, cioè non si può applicare lo stesso modello a quelle due città. Infine c'è una tesi di fondo, che è una tesi che è quasi un evergreen negli ultimi anni, su qualunque tema possibile, ovvero la tesi che la tecnologia ci salverà. La tecnologia è in grado di poterci risolvere, non dico tutti, ma il 90% dei problemi che noi abbiamo. Questo movimento, fondamentalmente, che introduce un approccio di mercato maggiormente liberalizzato e un approccio specifico alla gestione della città, all'interno della città, ovviamente partiamo dagli Stati Uniti e lentamente arriviamo in Europa, produce delle conseguenze abbastanza, secondo me, importanti. E queste conseguenze in particolare sono il motivo per cui ho proposto a Flavio la presentazione di questo libro, cioè il motivo per cui, secondo me, bisognerebbe leggere questo libro e interessarsi anche a questa cosa un po' astrusa di in che modo la tecnologia influenza la gestione di una città, eccetera, eccetera, eccetera. Se arriva qualcuno a mettere in discussione, primo punto, se arriva qualcuno a mettere in discussione il modo di gestire una città, quel qualcuno, direttamente o indirettamente, mette in discussione anche la definizione di cittadino. Se la città diventa un'impresa, io devo chiedermi come posso descrivere un abitante di quella città, cioè che funzioni, che cos'è un buon cittadino, che cos'è un cattivo cittadino, in che modo posso aiutare e in che modo non sto aiutando i cittadini. Se una città diventa un'impresa, questa domanda si fa curiosa, fondamentalmente, perché appunto, se le città diventano imprese, forse i cittadini diventano clienti. E a quel punto lì si tratta di nuovo di capire in che modo misurare il benessere di quel dato cittadino all'interno di una città. La trasformazione di una città da città tradizionale, chiamiamola analogica, a città eccessivamente tecnologica, quindi per cui mette in discussione il ruolo e il significato di città oggi nel mondo. Ci chiede a gran voce di discuterne. In secondo luogo, ci pone una domanda che dovremmo porci guardando a ogni aspetto della tecnologia moderna. Ovvero ci chiede di domandarci chi sviluppi una determinata tecnologia. Faccio un esempio, tornando al paragone che ho fatto prima, di misurare quante persone prendono il caffè in una regione per vendere poi i dati a Starbucks. Immaginiamo che, penso a un concorrente di Starbucks, che Lavazza abbia una catena di caffetterie simile a Starbucks. Io volendo, se fossi Lavazza e se in una data regione d'Italia stesse avvenendo un esperimento di questo tipo, se fossi Lavazza io probabilmente cercherei di comprare un'azienda che si occupa di sviluppare software tecnologici. E dopodiché, attraverso quell'azienda, cercherei di sviluppare il software, o in generale il sistema, che permette poi a una data regione di effettuare quel tipo di misurazione che poi verrà venduta a Starbucks. Perché magari la Vazza è interessata a fornire un certo tipo di dato piuttosto che un altro a Starbucks. Quindi per cui la questione che ci viene posta quando parliamo di Smart City è chiederci chi sviluppa una data tecnologia. Cercare davvero di risalire la filiera del valore e della produzione di strumenti che sono fatti per essere, il termine tecnico inglese è frictionless, ovvero quando noi cominciamo a utilizzarli quasi non ci rendiamo conto che li stiamo utilizzando, tanto funzionano bene. L'esempio banale è se col vostro smartphone spostate il posizionamento dell'icona di Facebook o di qualunque altra app che utilizzate, sono sicuro che vi accorgerete che farete spesso e volentieri, vi ritroverete a fare un movimento automatico quasi, bloccate il telefono e vi casca il pollice o l'indice lì proprio lì dove c'era magari prima Facebook o quell'altra app. Questo significa che quel determinato strumento tecnologico si è inserito in maniera così agile e gentile all'interno delle vostre vite da non farvi nemmeno più prendere in considerazione il vostro utilizzo di quel dato strumento. Se non prendiamo più in considerazione l'utilizzo, smettiamo anche di chiederci chi sviluppa quella determinata tecnologia. Se non ci chiediamo chi sviluppa una determinata tecnologia, a quel punto lì rischiamo di trovarci velocemente a non sapere più per quale motivo viene estratto un determinato dato. Smettiamo di chiederci perché, per esempio, la città di Senigallia misuri quante volte le persone vanno al bar in una settimana, che è una domanda abbastanza importante. Se poi riusciamo a capire a chi Senigallia va a vendere quel determinato dato. In ultima battuta, la Smart City crea una trappola mentale, nella misura in cui la narrazione della Smart City, ovvero una città che funziona meglio, che è più efficiente, che è più fluida, che è più tecnologica, che è più moderna, è più al passo coi tempi, è una narrazione comoda, ci fa stare bene, diamine. Se arrivasse qualcuno a dirmi di essere pronto a darmi un servizio di questo tipo, tendenzialmente non lo manderei a quel paese. Il problema però è che a lungo andare il rischio è di non riuscire più ad immaginarsi un tipo di città che sia diverso da quello che ci viene servito, un tipo di città diverso dalla città impresa, dalla città in cui ogni elemento presente all'interno dello spazio urbano e ogni azione del cittadino non siano asservite semplicemente alla creazione di un qualche tipo di valore. Il fatto che gli autori di questo libro abbiano trovato 38 modi diversi di narrare una stessa cosa, ovvero di narrare una città impresa, secondo me è abbastanza indicativo. All'interno di questo libro ci sono già 38 modi diversi per consolidare questo tipo di narrazione. Leggere questo tipo di distopie, perché di distopie si tratta, cioè sono slanci di immaginazione che a volte hanno molto a che fare con il reale, altre volte stiamo parlando quasi di fantascienza, ci permette, come ci ha sempre permesso di fare la fantascienza, di arrivare un pochino più preparati a quello che sta per succedere nel mondo. Perché magari non avremo le navicelle spaziali, scusate, le macchine volanti, però magari cominceremo a chiederci quanto sia importante l'automobile all'interno di una narrazione del futuro. C'è un'ulteriore premessa da fare, ed è l'ultima. Questo discorso non so quante volte voi abbiate sentito parlare, o per sentito dire, o magari nella vostra vita lavorativa, o all'interno dei vostri interessi, del concetto di Smart City. Io che mi occupavo di tecnologia me lo sono sentito vendere tantissime volte, e adesso, insieme a che fare, lavorando molto a contatto con le città, sento spesso e volentieri parlare del connubio tra in che modo la cultura all'interno di una città può interagire con la tecnologia, eccetera, eccetera, eccetera. Certo è che se non è un tema a cui si avvezzi, bisogna anche chiedersi perché stiamo qua a parlarne all'atto pratico. L'atto pratico è che tutta questa pippa che ho fatto, tutta questa descrizione a volte positiva, a volte negativa, riguarda uno scenario futuro che si consumerà. Non vi è dubbio che la tecnologia verrà, forzatamente o meno, con intenzioni positive o meno, introdotta sistematicamente all'interno delle città. E il motivo è semplice, perché le città stanno diventando sempre più importanti, anzi oserei dire centrali, nella narrazione non soltanto di una regione o di un paese intero o di un continente intero, ma nella narrazione e nella gestione di un pianeta intero. Basti pensare oggi al tema più caldo dell'anno, ovvero letteralmente, questo non era voluto il gioco di parole, il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, quante volte parlando di questi temi qua si parla anche di città, cioè si parla del rapporto tra una singola città e quel è un dato fenomeno, magari l'innalzamento del livello medio del mare a Miami, quello è un tema di cui anche potrei parlare per ore, a Miami c'è un pericolo di quel tipo lì, perché la città dà sul mare e essendo Miami una città che al centro un sacco di cittadini ricchi che vivono lungo la costa, dopodiché però una periferia estremamente povera. Insomma, è una città fatta in un determinato modo, bisogna necessariamente parlare di urbanistica quando si parla di futuro, perché sempre più persone vivono all'interno delle città, le città sono sempre più protagoniste dell'economia globale, dal punto di vista del come si muovono i flussi economici, e banalmente, in questo caso si tratta del classico investimento a rendere, sempre più aziende che hanno un peso consistente nello scenario globale stanno investendo milioni, anzi miliardi di dollari in tecnologie a scopo urbanistico. Quindi fondamentalmente la questione è: occupiamoci di questa cosa perché arriverà anche da noi, quando non è già arrivata. E arriverà anche da noi per i motivi precedentemente descritti, ovvero che il mondo è sempre meno mondo e sempre più città, ma anche e soprattutto perché si tratta fondamentalmente della burocratizzazione di una corsa all'oro. Se la città diventa impresa, a quel punto lì il profitto, il meccanismo che dovrebbe generare profitto, diventa all'interno di questa narrazione un meccanismo che allo stesso tempo, miracolosamente, dovrebbe sia fare il benessere dei cittadini che essere in grado di efficientare dei processi e quindi generare profitto. È una mentalità tipica della Silicon Valley, ovvero io sono in Silicon Valley, il bacino in cui sono nate gran parte delle aziende tecnologiche che oggi fanno parte delle nostre vite, e diciamo che se si parla con un giovane cosiddetto founder, ovvero colui che fonda o colei che fonda una determinata startup tecnologica e spera poi di vederla diventare grande, la narrativa che lui o lei ti servono è: io sto facendo questa cosa perché voglio fare il bene del mondo. E sono persone che ci credono davvero che un determinato strumento tecnologico possa migliorare la vita delle persone. L'altra faccia della medaglia però è chiedersi: questo strumento tecnologico da un lato sicuramente migliora la mia vita, magari. Penso alla mia capacità di scrivere questa sera a mia mamma che sono arrivata a Senigallia con WhatsApp, per esempio. Però devo anche chiedermi in che modo l'azienda che c'è dietro a WhatsApp, che in questo caso è Facebook, riesce a fornirmi questo servizio, visto che io non lo pago. Visto che tendenzialmente, non parliamo di tasse e di costo della vita, però la vita all'interno di una città è una condizione quasi necessaria e sufficiente del cittadino. Io posso, il più delle volte, muovermi liberamente all'interno di una città. In che modo il miglioramento della mia vita si trasforma in una risorsa per pagare le stesse tecnologie che permettono alla città di migliorare la mia vita? Questa premessa mi serve a dire, almeno a dirmi forse, perché non so come la vedete voi, però io quando leggo questi racconti o mi occupo di approfondire il modo in cui la tecnologia interagisce con le nostre vite, io ho paura, onestamente. Cioè, come dicevo all'inizio, quando mi alzo al mattino non mi sento di vivere proprio in un mondo le cui prospettive sono particolarmente rose. E se la mia vita, vedendo come si svilupperà, buttando come punto di vista l'attuale, il contemporaneo, è una vita che tendenzialmente si svilupperà all'interno di una città, che poi sia Milano, Torino, eccetera, non è importante, però l'idea che il futuro delle città sia un futuro in cui le città diventano un'impresa e in cui ogni cosa che io faccio all'interno di una città diventa una risorsa da cui poi si può estrarre un valore che poi viene rivenduto a qualcun altro e io divento letteralmente un cliente e allo stesso tempo un lavoratore inconsapevole di questi flussi economici non mi fa stare bene. A me leggere questo libro è servito per avere un po' meno paura, anche per cominciare a vedere determinate narrazioni della tecnologia in maniera più goffamente grottesca, imparare a vedere determinati pronostici sul futuro, essere in grado di riderne di pancia e dire: diamine ragazzi, mi state dicendo che da domani il traffico a Milano non esisterà più, ma io so perfettamente che questa cosa non avverrà mai, perché sono in grado di immaginarmi un mondo in cui ci sono tutta una serie di imprevisti all'interno di una città in cui non esiste più il traffico. E, riassunto rapido, stiamo parlando di questa cosa per ulteriori tre motivi. Il primo, che è quello centrale, perché stiamo parlando di economie estrattive, che sono quelle che informano ogni aspetto della nostra vita. Oggigiorno, nel senso, mi riallaccio al tema generale anche di Breach, la nostra vita virtuale, e sempre più la nostra vita fisica e virtuale, è fatta di servizi che noi non paghiamo, ma che in un certo senso devono pagarsi. Tendenzialmente questi servizi si fanno pagare estraendo dati dall'utilizzo che noi facciamo di questi servizi. L'esempio classico che viene fatto è quello dello scandalo di Cambridge Analytica, di cui penso tutti avrete sentito parlare. Nessuno di noi ha mai pagato per utilizzare Facebook, però Facebook insomma, gli stipendi li paga a fine mese, li paga vendendo pubblicità ad aziende private, e le aziende private vogliono investire denaro su Facebook perché le pubblicità su Facebook funzionano, tanto che nel caso di Cambridge Analytica un nutrito gruppo di comitati politici aveva profuso quantità di denaro ingenti per avere delle pubblicità di carattere politico sulla piattaforma. Quindi la questione è, ne stiamo parlando perché più passa il tempo, più la nostra vita diventa, i servizi che noi utilizziamo nella nostra vita quotidiana diventano apparentemente gratuiti, ma l'altra faccia della medaglia è che se diventano apparentemente gratuiti, da qualche parte una forma di valore da parte nostra sta venendo estratta, cioè inconsapevolmente stiamo lavorando per quell'azienda di cui non paghiamo il servizio. Poi c'è una visione un pochettino più filosofica e affascinante, per alcuni è terrificante, per altri è più felice, ovvero quella della cosiddetta quarta rivoluzione. La quarta rivoluzione è un concetto che è stato sviluppato da un filosofo italiano che si chiama Luciano Floridi, ed è un filosofo che letteralmente lui lavora ad Oxford, è il direttore mi sfugge il nome, di un centro di Oxford che si occupa nello specifico del rapporto esattamente tra vita virtuale e vita fisica degli esseri umani, e lui banalmente a un certo punto si è posto la domanda e si è detto: diamine, ma visto che oggigiorno ogni nostra azione produce in qualche modo dei dati, cioè lasciamo costantemente delle tracce sia nel mondo virtuale che nel mondo fisico, se noi togliamo questi dati dal tavolo da gioco, gli esseri umani esistono ancora? Ovvero, se io improvvisamente stacco la spina, smetto di utilizzare Facebook, smetto di utilizzare WhatsApp, smetto di frequentare città che magari stanno misurando la mia presenza all'interno di quella città, io posso ancora dire di essere effettivamente un essere umano che vive all'interno della società? La domanda sua è aperta. Io personalmente sono d'accordo con lui. Più il tempo passa, più siamo strettamente legati alla produzione di dati per sentirci esseri umani. E per poter discutere di questa domanda, e per poter anche evitare che, se la domanda ha un determinato esito, che la nostra vita diventi solamente un mondo fatto di dati, dobbiamo capire un attimino come funziona il flusso di mercato dei dati. Il terzo punto è quello, a mio parere, un pochettino più divertente, ovvero c'è una strana tendenza che riguarda i cosiddetti i CEO, gli amministratori delegati o non delegati, delle aziende che stanno guidando questa rivoluzione tecnologica nel bene e nel male. Nella mia esperienza, e io di loro ho parlato parecchio quando facevo il giornalista, sono tendenzialmente tutti dei matti, cioè, sinceramente delle persone che vivono una realtà talmente drogata dalla loro capacità di influenzare il mondo intero, non soltanto una singola città, un singolo paese, che spesso e volentieri perdono il lume della ragione, nel senso propongono delle cose che a sentirle dire, a leggere, si pensa: diamine, ma come ti è venuto in mente? Il problema però è che queste persone sono sufficientemente potenti da far diventare queste loro visioni una forzatura, un qualcosa che viene imposto al mondo intero o a singole città, come vedremo, o banalmente alla vita quotidiana delle persone. Ora vorrei fare una sorta di gioco, in un certo senso, che riguarda proprio quelli che io chiamo i presidenti della terra, ovvero i CEO di queste aziende, vi mostro quattro personaggi, quattro CEO di aziende che credo che tutti noi, no, non credo, sono sicuro che tutti noi conosciamo. Per ognuno di questi personaggi c'è una frase che ha pronunciato quel personaggio lì o potrebbe aver pronunciato, e poi cerchiamo di capire se quella frase l'ha davvero detta o meno. Prima faccio rapidamente in silenzio una carrellata delle slide per farvele vedere tutte e quattro, poi ci torno a partire dalla prima. Questo è il CEO di Airbnb. E apparentemente a un certo punto ha detto: so che molte aziende pensano di lavorare sul lungo termine, Airbnb c'è un'alternativa per Airbnb, ovvero lavorare in termini, su un termine infinito. Poi abbiamo Sundar Pichai, lui è il CEO di Google. Apparentemente ha detto: abbiamo iniziato a usare le conversazioni per la pubblicità nelle aree più ricche, poi abbiamo cominciato a farlo ovunque. Questo è Jeff Bezos, che ci tengo a ricordare in questo momento l'uomo più ricco del mondo, nonché CEO e fondatore di Amazon, e apparentemente ha detto: vogliamo portare il nostro nuovo quartier generale da 50.000 dipendenti a New York, la quale città ha illuminato l'intera città dei colori della nostra azienda per festeggiare questo avvenimento. Poi l'ultimo abbiamo Tim Cook, che è il CEO di Apple, il quale ha detto a Jobstown: i dati che raccogliamo sui cittadini sono così tanti che non abbiamo bisogno di polizia o sicurezza. Ecco, torno all'inizio. Questi quattro personaggi, questi quattro esempi sono in parte tratti dal mondo reale, in parte tratti da questo libro. E secondo me raccontano in maniera abbastanza inquietante il perché sia urgente parlare di queste tematiche. Airbnb, per esempio, quanti in sala hanno utilizzato Airbnb almeno una volta nella loro vita? Tipo quasi tutti? Ci sentiamo di dircelo? Airbnb è un'azienda che funziona benissimo, tendenzialmente, offre un servizio che funziona da Dio, se voglio andare a spendere un weekend da qualche parte, ho un catalogo disponibile in qualunque momento per scegliere l'appartamento più carino, con tutti i servizi possibili, eccetera, eccetera. Addirittura adesso mi offre una quantità di opzioni tali da potermi permettere quasi di non avere nemmeno più a che fare con l'effettivo padrone di casa per riuscire a entrare nella casa. Quindi in un certo senso mi dà la possibilità di nuovo di avere la cosiddetta esperienza frictionless. Io prenoto sul sito, arrivo a Madrid e entro letteralmente in casa mia perché non devo nemmeno parlare con l'effettivo padrone di casa. Airbnb però in tutto il mondo sta letteralmente cambiando la morfologia urbana di migliaia di città ormai. I centri storici di tutto il mondo stanno cambiando aspetto perché sempre più proprietari di edifici preferiscono mettere in affitto gli stabili su Airbnb, quindi affitto a breve termine, invece che o banalmente farli abitare da qualcuno vendendoli o affittandoli a lungo termine. Il fatto che succeda questa cosa nelle città e che cambi in maniera ingente la morfologia urbana di città grandi e piccole ha un impatto abbastanza importante. L'ultimo esempio, per esempio, ce l'ho da Milano e ha qualche giorno sulle spalle. A Milano c'è la storia, c'è un grattacielo che era stato abbandonato negli anni, se non mi sbaglio, 70, e che da allora è rimasto letteralmente sfitto. È stato occupato per un periodo, poi è stato sgomberato, adesso non ci hanno fatto granché. Insomma, uno spazio comunque interessante su cui si potrebbero fare dei ragionamenti curiosi per capire come utilizzare un grattacielo abbandonato. Non è proprio una cosa che capita tutti i giorni. Qualche settimana fa il Comune di Milano ha dato la via libera, ovvero ha firmato un accordo con Airbnb per delegare ad Airbnb il compito di immaginarsi un nuovo utilizzo per questo grattacielo. Ora, quel grattacielo lì, in quel momento, era un bene pubblico, in un certo senso. Era una proprietà del Comune di Milano, abbandonata, che poteva avere 1.000 utilizzi, e invece il Comune di Milano, quindi non un'azienda privata che vuole solamente fare profitto, ma il Comune di Milano, che in teoria dovrebbe guardare al benessere della città intera, ha detto: cedo questo stabile in una determinata forma a un'azienda privata che ha una direzione abbastanza chiara, insomma, vuole prendere quel grattacielo e metterlo in qualche forma in affitto sulla sua piattaforma. La frase che ho inserito qua del suo CEO è una frase che Brian Chesky ha pronunciato davvero e che a me personalmente, quando l'ho letta, mi ha fatto un po' strabuzzare gli occhi. Cioè, lui ha letteralmente detto: Airbnb deve essere un'azienda con un orizzonte temporale infinito. Io ora non ho studiato economia aziendale né nulla che abbia a che fare con l'economia, però mi sembra un'affermazione molto forte, estremamente, insomma, quasi fantascientifica. Il fatto che il CEO di un'azienda che oggi si occupa di rilevare in varie forme spazi privati e pubblici e rimetterli in circolazione su un mercato globale di affitti dica che la sua azienda dovrebbe avere un orizzonte temporale infinito, mi incuriosisce, perché mi fa sembrare e fa somigliare Airbnb non più soltanto ad un'azienda privata che vuole generare profitto, ma la fa lentamente diventare un apparato parallelo a un apparato, a un'istituzione urbana. In un certo senso ci sono due tipi di città: c'è la città reale, quella abitata dai cittadini, dagli abitanti di Senigallia, per esempio, e poi c'è la Senigallia su Airbnb. Più si accresce il potere di Airbnb, il potere contrattuale, ovvero la capacità di Airbnb di modificare determinate decisioni che vengono prese all'interno di una città, più si accresce anche la frattura che c'è tra questi due tipi di città e anche il modo in cui vengono abitate queste città. C'è una Senigallia magari abitata dai suoi cittadini che frequentano determinati posti e vanno in determinati luoghi, e poi c'è una Senigallia abitata interamente dai turisti che affittano su Airbnb, che magari banalmente, semplicemente per la geografia degli affitti inseriti su Airbnb, vanno solamente in determinati altri posti. A me questa situazione sembra un po' distopica, cioè non vorrei vivere in una città che esiste su due livelli, di cui uno appartiene ad un'azienda privata, che di base ha un mandato, ovvero generare profitto, generare valore per i propri azionisti, si direbbe. Il secondo esempio per me è più interessante. Secondo voi questa... No, mi sembra brutto porre la domanda. Vi sarete risposti se l'ha detta o non l'ha detta. Questa citazione è stata pronunciata da Sundar Pichai all'interno del libro e non nella vita reale. All'interno del libro, infatti, c'è un racconto molto suggestivo di una città amministrata come Google AdWords. Qualcuno di voi sa che cos'è Google AdWords? Il sistema AdWords? Ok. Breve spiegazione. Tutti sappiamo cos'è Google, immagino, quello sì. Cerco una parola, facciamo sempre l'esempio, cerco Senigallia su Google e mi appaiono una serie di risultati. L'ordine di apparizione di questi risultati è dato da un algoritmo in questo momento segreto che valuta quanto pertinente sia una determinata pagina web se io cerco su Google Senigallia. E l'idea è quella di riuscire a mettere in cima la pagina web che più ha a che fare con Senigallia, di modo poi da rendere chi cerca la parola Senigallia su Google il più contento possibile, perché evidentemente ha trovato subito quello di cui aveva bisogno. Ovviamente anche Google però deve pagare gli stipendi, quindi anche Google, un po' come tutte le aziende di questo tipo, vende pubblicità. Nella fattispecie su Google, Alphabet, che è l'azienda che ora di fatto possiede Google, vende la possibilità di far apparire la propria pagina web in cima ai risultati, benché magari non sia completamente pertinente. Faccio un esempio: io apro un ristorante a Senigallia, è un sushi, un all you can eat, quindi magari immediatamente non ha troppo a che fare con le parole che possono afferire a Senigallia, però io ci credo un sacco e voglio che tutti quelli che vengono a Senigallia passino dal mio ristorante, quindi per cui do un sacco di soldi a Google e dico a Google, questo è l'indirizzo del sito internet del mio ristorante, io vorrei che apparisse in cima ai risultati se io cerco la parola Senigallia su Google. A questo punto succede una cosa incredibile nel senso, per me un po' stupefacente, nel senso che mi sembra anche qua quasi fantascienza, ovvero parte un'asta. Google per farmi, per capire quanto farmi pagare questa inserzione pubblicitaria, verifica qual è il valore della parola Senigallia, ovvero cerca di capire qual è il valore economico di quella parola, quante persone vogliono avere quella posizione in cima alle ricerche su Senigallia, che tipo di inserzioni vogliono inserire, stiamo parlando di un sacco di ristoranti, oppure magari che ne so, sono delle aziende industriali che vogliono assumere persone su Senigallia. Insomma, quello che succede è che fondamentalmente Google associa a una singola parola che noi utilizziamo parlando, l'ho utilizzata parecchie volte già solamente nel mio intervento, ovvero la parola Senigallia, gli associa un valore economico molto preciso. Questo valore economico viene ridiscusso ogni volta che qualcun altro vuole inserire un'inserzione su Google utilizzando la parola Senigallia. Ora, fino a qua tutto normale. Cioè, è abbastanza regolare che un'inserzione di questo tipo venga, il valore di un'inserzione di questo tipo venga deciso in questo modo. Quello che mi ha lasciato completamente sbalordito è stata un paper di ricerca pubblicato da un accademico che si occupa proprio in un certo senso di fare il cane da guardia di Google, il quale ha messo in rilievo un dato molto semplice, ovvero ha verificato quante volte al minuto si verificano questo tipo di aste. Si verificano 68.000 volte al minuto in tutto il mondo. Quindi ogni minuto Google associa a 68.000 parole di tutte le lingue del mondo, eccetera, eccetera, principalmente inglese per ovvi motivi, un valore economico molto preciso. Ora, passano i minuti, passano le ore, passano i giorni, eccetera, eccetera, a un certo punto, in un certo senso, le parole perdono di significato, diventano quasi, cioè, la corsa è a trovare qual è la parola più cercata, quindi quella più efficace per poter inserire la mia inserzione. Improvvisamente, se immaginiamo Senigallia come il caput mundi dell'area, tutte le cose, tutte le altre attività o gli altri siti turistici o non turistici che ci sono attorno a Senigallia perdono di valore, perché l'unica cosa importante è essere visibili quando qualcuno cerca Senigallia, perché la maggior parte delle persone cerca Senigallia. Il racconto che viene descritto all'interno del libro è particolarmente interessante, perché racconta di una Google, un'azienda come Google, che ormai è diventata talmente ricca che fa una cosa che tutte le grandi aziende a un certo punto fanno, le aziende digitali. Quando hanno finito di generare profitto nel mondo virtuale, passano al mondo fisico, cominciano ad acquistare terra, letteralmente, per farci cose. Perché la terra è ancora tendenzialmente un pochettino più solida dei dati virtuali. Nel racconto, il mondo di Google è un mondo in cui Google possiede gran parte del territorio urbano in cui le persone vivono, ed è un mondo in cui Google non soltanto possiede questi territori urbani, ma ci ha anche costruito condomini, palazzi, negozi, eccetera, eccetera. Solo che Google, che è un motore di ricerca, anzi un'azienda pubblicitaria che ha un motore di ricerca quasi, ha detto: diamine, però se io devo costruire un condominio, perché possiedo la terra e devo farci abitare delle persone dentro, io non lo sto costruendo perché spero di creare il nuovo paese dei balocchi, ma perché voglio di nuovo sfruttare quel condominio per vendere pubblicità. Quindi all'interno di questo racconto viene semplicemente applicato il meccanismo di AdWords nella vita reale. L'autrice, che è un'accademica dell'Università di Edimburgo, scusate, si immagina una serie di città in cui gli spazi urbani pubblici, le piazze, per esempio, sono disseminate da microfoni, banalmente, che vengono utilizzati, torniamo al discorso di prima, per misurare cose che ci potrebbero tornare utili. Di cosa parlano le persone nelle piazze? Se le persone nelle piazze non smettono di parlare di buche, significa evidentemente che c'è un intervento da fare all'interno delle strade di quella città, e via dicendo, potremmo andare avanti. Cosa? Se io dico le parole giuste, Google mi premia, ovvero se io all'interno della mia piazza, della piazza della mia città, pronuncio delle parole che aiutano Google a vendere più pubblicità, Google a quel punto lì mi dà la possibilità, che ne so, di avere uno sconto nella caffetteria che è all'interno di uno stabile di proprietà di Google. Insomma, qual è il punto di questo racconto? Il racconto si immagina un mondo in cui Google ascolta tutte le conversazioni parlate degli esseri umani, Per ogni conversazione pronunciata, Google associa un valore ad ogni singola parola e, e inoltre premia le persone che utilizzano nel parlato parole che permettono a Google di vendere meglio le pubblicità. Chiunque abbia mai lavorato nel mondo del marketing web o abbia creato un sito web, probabilmente ha già sentito questa storia. Quando io vado a programmare un nuovo sito web, mi viene chiesto di fare quella che è la cosiddetta Search Engine Optimization, l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Mi viene chiesto, inserisci arbitrariamente una serie di parole all'interno del mio sito web perché così appare più in alto nei risultati dei motori di ricerca. Quindi in un certo senso io faccio un favore a Google inserendo nel sito del mio ristorante di sushi la parola Senigallia, perché in cambio Google mi dice, guarda, se tu mi aiuti a rendere Senigallia la parola più cercata se devo fare una serie di cose, io ti aiuto, perché più tu la utilizzi, più tu sali nei risultati. La parte divertente del racconto è che il racconto fa un paragone con la crisi, un parallelo con la crisi finanziaria del 2008 e parla della crisi linguistica globale, ovvero di un momento in cui Google aveva il monopolio su tutte le conversazioni pronunciate dall'uomo e a un certo punto, visto che ogni conversazione è letteralmente una pubblicità perché parliamo attraverso parole che ci permettono di ottenere servizi sempre migliori e ogni parola viene poi ricapitalizzata per diventare parte di una pubblicità, il linguaggio perde di senso, cioè nessuno più sa come parlare, sembra che tutti si stiano pigliando per il culo fondamentalmente, sembra che le parole che io sto utilizzando durante questo intervento non siano le parole che voglio effettivamente utilizzare, ma delle parole che mi servono per ottenere poi dei benefici da parte di Google. Insomma, il mondo intero va in sbattimento, impazzisce e c'è una guerra civile gigantesca in cui l'umanità viene spazzata via e il racconto immagina la visita di alcuni archeologi del futuro che trovano dei diari scritti a mano in cui non si capisce bene se queste parole afferissero a una reale conversazione o appunto di nuovo a una conversazione pensata per ottenere dei benefici per Google di base. Ok. Qua invece questa è una delle mie preferite. Vogliamo portare il nostro nuovo quartier generale da 50.000 dipendenti a New York. Spiego un po' meglio la seconda parte. Inoltre, New York, per convincerci a fare questa cosa, ha illuminato l'intera città dei colori della nostra azienda. Quindi il giallino, rosso, arancione Amazon. Secondo voi, qui ve lo chiedo, secondo voi questa frase è stata pronunciata per davvero? La domanda è un po' retorica. Vi lascia più stupiti il fatto che New York abbia illuminato l'intera città o i 50.000 dipendenti? 50.000 sono tanti. New York? Ok. Allora, questa frase ovviamente è stata pronunciata davvero ed è credo il motivo per cui mi sono interessato. A un certo punto sono finito a leggere questo libro. Jeff Bezos è il proprietario di Amazon, il CEO di Amazon, l'uomo più ricco del mondo, dirige un'azienda che ha offre servizi allo stesso tempo distopici e utopici, ti fa arrivare i pacchetti in casa in 3 ore, ma allo stesso tempo mette in vendita cianfrusaglie creando un mercato di ricircolo di merci che sembra qua è completamente artificiale. All'inizio del 2018, negli Stati Uniti, lui dice, siamo diventati belli grandi, siamo super ricchi, dobbiamo aprire il nostro secondo quartiere generale. Il nostro secondo quartiere generale, essendo noi Amazon, darà lavoro, questa cosa l'ha detta per davvero, a 50.000 persone. Ovviamente parliamo di dipendenti che lavorano nella sede e tutto l'indotto. Negli Stati Uniti si è scatenato il putiferio. Cioè tutte le città degli Stati Uniti, tutte le città con una dimensione dignitosa, volevano accaparrarsi questo quartiere generale di Amazon, perché si tratta intanto di un prestigio di un certo tipo per una narrativa di una città moderna che ospita il quartiere generale di Amazon, ma poi si trattava di dare lavoro a un botto di persone. Le città di tutti gli Stati Uniti sono completamente impazzite, nel senso che hanno cominciato, cioè, avrebbero fatto qualunque cosa pur di ottenere questo quartiere generale. A Denver, a un certo punto, Denver ha promesso, perché ovviamente Jeff Bezos in un certo senso ha lanciato non dico un'asta, ma quasi una gara, ha detto: questa è l'offerta, fatemi vedere, cioè questa è la promessa, fatemi vedere chi offre di più, che vi porto il quartier generale. La città di Denver negli Stati Uniti ha offerto a Jeff Bezos uno sgravo fiscale di 7 miliardi di dollari. Cioè, la città di Denver ha detto: io pago per te le tasse per 7 miliardi di dollari a patto che tu mi porti il quartier generale. New York, e l'illuminazione della città è l'ultimo capitolo di questa serie, ha proposto di trasformare completamente un intero quartiere per ospitare, trasformare dal punto di vista urbanistico, disegno delle strade, eccetera, per ospitare nel modo migliore il quartiere generale di Amazon. Gli abitanti di quel quartiere, i comitati degli abitanti di quel quartiere, hanno fortunatamente, New York ovviamente era la favorita in questa gara, per motivi abbastanza intuibili, hanno detto: ma noi ci crediamo davvero che Mr. Bezos porta 50.000 dipendenti, cioè dà lavoro a 50.000 persone qua a New York? Non dà lavoro a 50.000 persone, il Jeff Bezos ha impostato una narrativa per la quale ha detto 50.000 persone, ma poi si scopre che di queste 50.000 persone, 30.000 sono persone che arrivano da fuori New York, 10.000 delle altre 20.000 sono lavoratori non full time, insomma, ovviamente il supplé si sgonfia. E quindi cominciano a protestare. Il sindaco e il vice sindaco, come abbiamo visto, di New York, però vogliono un sacco questa cosa, comprensibilmente anche, non dico giustamente, ma sicuramente comprensibilmente. E a un certo punto soffrono così tanto l'ascendente di Amazon, da imporre il giorno prima delle trattative, che sarebbero avvenute nel municipio di New York, di prendere tutti i grattacieli di New York, di cui la città di New York gestisce l'illuminazione, tranne quelli, la Trump Tower e via dicendo, e impone loro di cambiare il colore delle luci, perché Jeff Bezos, in arrivo a New York, deve sapere al 100% che New York lo vuole. New York non è cani cattivi, cioè, adesso non voglio dire, pronunciare numeri che non conosco, ma è sicuramente almeno nella top 5 dei sistemi urbani globali dal punto di vista del profitto che genera e del tipo di vita che viene condotta all'interno. Il fatto che una città come New York volesse mutare la forma virtuale e fisica della propria città in una maniera precisa, e quella maniera precisa è mutarla seguendo la traccia del funzionamento di un'azienda come Amazon, e Amazon fa consegne principalmente, dice parecchio del rapporto tra tecnologia e città oggi. A Jamestown i dati che raccogliamo sui cittadini sono così tanti che non abbiamo bisogno di polizia o sicurezza. Questo è un racconto del libro, e è un racconto interessante perché facilone, in un certo senso, e fornisce un paio di punti di vista interessanti su tutta quella pippa di cui parlavo dell'economia estrattiva. Il racconto che c'è all'interno del libro riguarda appunto Apple, e la tiritera è simile a quella di Google. Apple è super ricca, così ricca che dice: facciamo un esperimento di vita urbana. Costruiamo dal nulla, con tutti i soldi che abbiamo in più, con i capitali che abbiamo a disposizione, un piccolo complesso urbano, con dei condomini, dei negozi, eccetera, eccetera, e vediamo come va. Facciamo diventare questo complesso urbano la smart city per eccellenza, misuriamo tutto quello che avviene, tanto che chi entra a Jobstown, questo è il nome della città all'interno del racconto, non ha praticamente bisogno di nulla, non ha nemmeno bisogno quasi del portafoglio, perché ogni pagamento è contactless, cashless, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una parte di questo racconto che è particolarmente interessante. Il racconto non ha grossi colpi di scena, semplicemente descrive com'è la vita a Jobstown, una giornata tipo. I cittadini devono partecipare a degli incontri in cui Apple chiede dei feedback sul prodotto, ovvero la città, un po' come se lasciasse una recensione sull'App Store, ma soprattutto c'è questa frase che mi ha colpito molto, ovvero il sindaco di Jobstown, che colpo di scena non è un sindaco ma è Apple, dice: guarda, noi qua non è che abbiamo bisogno di grandi corpi di polizia o di mettere telecamere da qualche parte, perché noi raccogliamo così tanti dati sulle persone che sono presenti a Jobstown, sulla vita individuale ed quotidiana di queste persone, che se tu commetti un crimine, io lo so, non ho grossi intoppi per riuscire a beccarti, fondamentalmente. Questo significa che a volte le dinamiche di estrazione diventano così efficienti da invisibilizzarsi, cioè quando una cosa funziona benissimo diventa appunto, cioè quando un sistema di questo tipo funziona benissimo diventa frictionless e a un certo punto subentra una narrativa che sembra quasi piacevole. Ti vendiamo una città che è così efficientata dal punto di vista tecnologico che è più sicura. Questa è una tiritera che insomma non serve sversare nella tecnologia per ricordarci da dove arriva e arriva sempre da insomma, un mondo politico molto preciso. Quello da tiritera sulla sicurezza. La tecnologia, il mondo delle soluzioni tecnologiche inserite all'interno delle città, può asservirsi a questo tipo di narrazione. E questo racconto lo rappresenta molto bene. Terza parte di questa presentazione. Sto arrivando in chiusura, non so come sia messo coi tempi, spero ok. Questa è la parte un po' di. Il mio punto di vista personale sulla questione. Io, come dicevo, non so nulla di urbanistica. Mi sto trovando davanti a una serie di questioni che mi sembrano semplici, ma in realtà sono incredibilmente complesse. Faccio un esempio molto banale. Io a Milano do una mano in uno spazio occupato che si chiama Macao, che è recentemente finito all'interno di un bando grosso comunale. Insomma, lo stabile occupato è all'interno di questo bando e a rischio sgombero. E io parlando con una serie di persone ero lì a sbattere i piedi a dire diamine, però la palazzina Tal d'Italia è finita in questo bando, io non sto capendo cosa sta succedendo perché non c'è un modo semplice per capire come diamine funziona questo bando e perché sia stata assegnata proprio quella palazzina, cosa io possa fare in un certo senso per dare una mano. E mi aspettavo, insomma, una robetta abbastanza semplice in un certo senso, non è proprio così. E nel parlarne, anzi, nel fare domande e ricevere risposte parecchio lunghe, mi sono reso conto anche che la risposta ai miei determinati dubbi spesso non è così ovvia. Cioè il mondo, è un po' un cliché, però lo sto scoprendo adesso, è fatto di tante sfumature di grigi, in un certo senso, è raramente bianco e nero. Quando si parla di aziende tecnologiche e, in senso narrativo, quando si parla del rapporto tra le aziende tecnologiche e le città, bisogna pensare anche al fatto che aziende complesse, e se sono tecnologiche sono incredibilmente complesse, perché per esempio Amazon fa mille cose oltre che le consegne, tendenzialmente se voi aprite un sito web qualsiasi c'è una buona possibilità che quel sito web sia ospitato su uno spazio di proprietà di Amazon. E questo non ha nulla a che fare con le consegne, mi sembra palese, però è indicativo del fatto che Amazon ha un grosso potere decisionale anche su un'altra parte, anche su un altro mercato molto grande. Aziende complesse generano indotti complessi, quindi sistemi economici estremamente complessi, nel bene e nel male, nel bene nel senso che creano dei meccanismi virtuosi assolutamente complessi, dall'altro lato creano anche delle conseguenze che non è proprio immediato districare. Per questo motivo, è necessario, io su questo mi sento abbastanza radicale, è necessario operare una resistenza complessa a questo tipo di cambiamenti e di evoluzioni. Cioè non basta dire non voglio questo, punto e basta. E purtroppo per me è necessario studiare o in un certo senso è necessario provare a formulare una nuova forma di cultura politica. E quando si va a osservare la multidisciplinarità delle criticità storiche che si stanno avvicendando negli ultimi anni, l'asticella di questa nuova cultura politica è almeno per me spaventosa. Servono competenze su tutto per capire cosa sta succedendo. E io cioè, non so quanti di voi abbiano competenze su tutto, ma è un bel problema avere le competenze su tutto, c'è cioè un gran bel pezzo di lavoro. C'è un esempio che a me è piaciuto parecchio e secondo me è una metafora abbastanza efficace di quello che secondo me sta succedendo e che secondo me viene raccontato all'interno di questo libro. Nel corso del 2018, beh, adesso è successo in Australia poco fa, in tutta l'Australia ha bruciato per 6 mesi, casino mica da poco. Nel 2018 è successo più o meno lo stesso su una magnitudine un po' inferiore ma con danni quasi identici dal punto di vista della qualità del danno, in California, California che insomma, non proprio non un paese del terzo mondo, i riflettori sono puntati lì e lì dovrebbe esserci anche la capacità di gestire una crisi del genere. Fatto sta, in California incendi boschivi aggravati dall'inasprirsi del cambiamento climatico, le foreste bruciano e le persone si spaventano. Dicono, diamine, mi sta bruciando il bosco vicino a casa, l'incendio sembra che stia per arrivare alla porta di casa, cosa faccio? Serve un piano, devo spegnere questo incendio in qualche modo. Ovviamente le condizioni di partenza sono talmente gravi, ovvero l'umidità ai minimi storici, secchezza del suolo, che gli incendi divampano e dilagano a velocità senza precedenti. E succede che ogni volta che l'amministrazione californiana si ferma un secondo per cercare di capire come spegnere definitivamente questi incendi, in quel lasso di tempo che intercorre tra il fermiamoci un secondo e formuliamo un piano e prendiamo i secchi e spegniamo l'incendio va ancora più fuori controllo. E quindi non appena le persone, gli amministratori della California escono dallo stanzino e tornano a guardare la situazione, dicono, diamine, la situazione è ancora più grave di prima, dobbiamo tornare dentro perché serve un nuovo piano. È chiaramente un circolo vizioso. E il circolo vizioso che descrivo qua non è una finzione. A un certo punto in California, e stiamo parlando di una regione, di uno stato all'interno degli Stati Uniti, cioè un posto gigantesco con una marea di risorse, lo stato della California ha dichiarato uno stato di emergenza senza precedenti perché ha detto si stanno consumando gli incendi, abbiamo esaurito i soccorritori professionisti che potevamo, come si dice in inglese, dispatch, rilasciare, inviare in soccorso all'interno della regione. Abbiamo esaurito i soccorritori non professionisti, cioè quelli che abbiamo formato al volo in 448, e non sappiamo più cosa fare, cioè li abbiamo chiamati ovunque, però l'incendio va talmente forte che non c'è santo che tenga. Un'antropologa, qualche mese dopo, ha ripreso in mano quello che è successo e ha detto quello che è successo in California dovrebbe darci da pensare, perché è una storia, i crismi della storia californiana sono gli stessi crismi di tante vicende del mondo moderno. Tante vicende che stanno diventando critiche perché si stanno consumando in contemporanea e si stanno consumando su scale e su magnitudo sempre maggiori. Ovvero, questa antropologa americana che si chiama Adriana Petrina dice in California è successo questo. Per una serie di motivi, il cambiamento climatico antropogenico, l'incendio era fuori controllo. Così fuori controllo che non avevamo più soccorsi, la materia prima, gli esseri umani da poter mandare in soccorso a queste persone. Tanto che, e questo invece è un fast forward alla vicenda australiana, in Australia è successa la stessa identica cosa, a un certo punto un'amministrazione locale di un piccolo comune australiano ha rilasciato un messaggio ufficiale, un comunicato ufficiale dell'amministrazione locale che diceva ai propri cittadini è troppo tardi per andarsene, chiudetevi in casa e sperate in Dio, in buona sostanza. Cioè, non io che lo vado a urlare ai 420, il sindaco di Cittadina Tal d'Italia che dice, ragazzi, è troppo tardi per andarsene, è finita. L'unica cosa che resta è sperare. Quella è per me distopia totale, non dovrebbe succedere in un mondo, in Australia, che è un'economia complessa fatta di mille servizi. Torniamo all'antropologa. Lei dice, diamine, quello che è successo in California può essere descritto in termini più assoluti. Nel mondo moderno, gli esseri umani vivono immersi in quelli che lei definisce runaway changes, ovvero cambiamenti che mutano non appena noi cerchiamo di inquadrarli fondamentalmente, passano attraverso le dita delle mani. E il fatto che il mondo moderno sia informato da runaway changes va a erodere, a mangiare, quello che lei definisce actionable time, ovvero un tempo reale, ore, minuti, in cui un'azione dell'uomo può imprimere un cambiamento effettivo su una determinata situazione. L'esempio dell'incendio, se prende fuoco il bosco fuori casa, io posso tranquillamente uscire col secchio d'acqua e cominciare a spegnere l'incendio, però difficilmente io da solo col secchio d'acqua spengo il rogo. L'actionable time è la mia capacità, la capacità dell'essere umano di organizzarsi in quel tempo lì e riuscire a raccimolare quante più persone possibili per spegnere l'incendio in quel dato momento. Ecco, Petrina dice, i runaway changes stanno aumentando, sono sempre più violenti e si avvicinano a una velocità sempre maggiore, per cui il tempo che noi abbiamo a disposizione per poter intervenire è sempre minore. Dobbiamo sviluppare una nuova abilità, e in questo lei fa la grande comunicatrice, e dice, dobbiamo sviluppare una nuova abilità, questa abilità si chiama Horizoning. Dobbiamo essere in grado di guardare costantemente all'orizzonte ed essere pronti a quello che sta succedendo, perché non c'è alternativa, perché non è che possiamo farci bruciare la California, non è realistico, cioè una soluzione va provata. Petrina chiede di imparare a trovare un modo per progettare soluzioni estremamente compatte ed altamente efficaci, in grado di intaccare profondamente le complessità in tempi brevissimi. Che è un po', se ci pensiamo, quello che le smart city vorrebbero fare. Se facciamo un attimo mente locale su quello che ci siamo detti prima. Ovvero, progettare soluzioni compatte ed estremamente efficaci, la telecamera che ti permette di rilevare lo spostamento di Tizio Caio Sempronio a Sinigaglia, per parlare di una cosa che non è scontata per niente, ovvero come funziona e come si vive all'interno di una città. Ho inserito questo pezzo perché secondo me il raccordo tra il racconto che ha fatto Petrina e le conclusioni che ha tratto e il racconto all'interno del libro hanno diversi punti in comune. Questa può essere una chiave di lettura interessante. Qua una sintesi ulteriore: come immaginiamo un agire assolutamente urgente e in grado di intaccare fenomeni altamente complessi, i quali mutano a velocità maggiori della nostra capacità di comprenderli. Questa per me è la sintesi del mio mondo moderno ed è una sintesi che mi fa venire i brividi, onestamente. E questo libro, tra le altre cose, mi aiuta a mettere in discussione questa sintesi e dirmi: guarda, non tutti i problemi che tu stai osservando fanno così paura come credi che facciano paura, perché a volte sono molto più goffi di quello che pensi. Qua arrivo in conclusione per, insomma, cercare di non sembrare particolarmente pessimista. Quando mi occupavo da giornalista di tecnologia e scienza, ho passato l'intero 2017 a occuparmi di cambiamento climatico, a cercare di capire cosa stesse succedendo nel mondo da quel punto di vista, perché banalmente è successa una cosa molto stupida. Io prima del 2017 non è che mi interessasse particolarmente il tema. L'estate del 2016 era stata particolarmente calda, io sono stato molto male, ho detto perfetto, devo capire cosa sta succedendo perché non voglio più estate così calde. Quindi comincio a occuparmi del tema. A un certo punto, nell'occuparmi del tema, comincio a spaventarmi perché la situazione non è delle più promettenti, e finisco, diciamo, non dico alla neuro, ma quasi, perché mi ritrovo, vado a girare un documentario a Venezia proprio su questo tema, sul rapporto tra l'innalzamento del mare e l'affondamento di Venezia, e io ero lì a strapparmi i capelli e dire: diamine, ma qua è gravissima la situazione, ma Venezia affonda, ma sono matto, non è possibile, oddio, e non riuscivo a spiegare questa cosa alle persone che mi stavano attorno, nemmeno la troupe che era con me lì a girare il documentario. Banalmente non riuscivo a trovare empatia in questo momento di totale agitazione che avevo per l'immediato. Quindi faccio una cosa che io ricordo con molto affetto, perché tornato dal mio viaggio a Venezia, pronto per essere internato, scrivo al mio meteorologo preferito, che è una cosa un po' strana da dire, però ho un meteorologo preferito, che è questo signore che si chiama Eric Holthaus, è un meteorologo americano, il quale fa una cosa molto banale. Cioè, noi abbiamo in mente Giuliacci che dice: a nord c'è il sole, a nord c'è la pioggia, a sud c'è il sole. Lui è uscito scemo, un po' molto peggio di me, per il cambiamento climatico, ha passato un sacco di anni a sputare e vomitare numeri sul cambiamento climatico, nessuno gli dava retta, lui impazziva. A un certo punto ha detto: fermi tutti, io ho un figlio, ce l'ha per davvero. Ho un figlio e ho paurissima, perché io a un certo punto crepo, però mio figlio è quello che si, insomma, che poi deve fare i conti con le conseguenze di questi numeri che io sto descrivendo. Non appena ha cominciato a parlare del figlio, le persone hanno immediatamente cominciato a dargli ascolto. Quindi ha inaugurato questa stagione di racconto estremamente emotivo delle conseguenze del cambiamento climatico, che è risultato estremamente efficace. Quindi, insomma, gli scrivo e gli faccio: senti, Eric, tu non mi conosci, ma io sto uscendo scemo come te. Vedo un mondo estremamente complesso, in quel caso il mondo del cambiamento climatico, e non sto riuscendo a trovare un modo efficace per passarlo, per riuscire a raccontarlo, letteralmente trovare empatia / compassione. Come fai tu? Tu lo fai da un sacco di tempo. Lui mi dà tutta una risposta articolata, di consigli pratici, eccetera, eccetera, però a un certo punto mi dice una cosa che mi ha colpito abbastanza. Se non, eccoci qua, esatto. Io gli chiedo: ma in questa vicenda specifica del cambiamento climatico, che a me sembra estremamente complessa, tu riesci davvero a immaginarti una soluzione? Cioè, ci sarà un modo, banalmente, per sopravvivere? lui mi ha risposto così, mi ha detto: penso che ciò che infine funzionerà è un movimento sociale di massa che chiede un cambiamento, non il processo lento ed incrementale della democrazia tradizionale, ok, opinabile, non opinabile, possiamo parlarne per parecchio tempo, però mi ha detto soprattutto quest'ultima frase: non ho idea di che aspetto avrà successo quando si paleserà, ma penso che arriverà molto prima di quanto pensiamo, perché non può non arrivare. Ho deciso di inserire questo scambio che ho avuto con lui in conclusione a questa presentazione per le ultime parole che lui mi ha scritto. Il perché non può non arrivare. Per me quelle parole lì sono state fondamentali. Erano parole che in quel caso lì riguardavano il cambiamento climatico, e adesso stiamo parlando di una cosa solo apparentemente diversa. Però erano parole che arrivavano da una posizione molto precisa. Un tecnico di quel tema, che aveva un grosso legame emotivo con il tema che trattava, che a un certo punto dice: guarda, io continuerò il mio lavoro, continuerò a fare giornalismo a riguardo, a raccontare cosa sta succedendo e a cercare di lanciare l'allarme. Ma io non so che aspetto avrà la soluzione a questo problema, ma io so per certo, io tecnico che conosco pedissequamente i crismi di questo problema e il rapporto tra il problema e le persone, che una soluzione si paleserà, perché non può non arrivare, perché non mi è possibile, non mi è accettabile in un certo senso pensare che possa succedere altrimenti. È un punto di vista estremamente antropocentrico, in un certo senso non può non essere che l'uomo non sopravviva al cambiamento climatico. Però in quel momento lì a me è servito tantissimo, perché in un momento in cui ero pieno di incertezze, pieno di paura, il sentirmi dire perché quella soluzione non può non arrivare mi ha permesso di ritrovare fiducia nel lavoro che stavo facendo. E concludo qua. Lo scenario delineato dal libro che ho presentato oggi, soprattutto lo scenario che introduce il libro, più che lo scenario distopico, utopico che racconta, è uno scenario che a me personalmente preoccupa parecchio e che mi sembra estremamente complesso e eccessivamente urgente. Non mi sento in grado di interagirvi con efficacia. Non posso occuparmene, posso continuare a fare le presentazioni, posso continuare a leggere i libri, però non mi sento di essere all'altezza in un certo senso. E questa cosa mi rende fragilissimo. Allo stesso tempo, però, è importante per me ricordarmi che una soluzione ai lati negativi del contesto descritto da quel libro lì si troverà, perché non può non arrivare. Non posso immaginarmi, non è accettabile per me una vita, prendendo questo tema, in cui immagino il mio futuro come un futuro vissuto all'interno di città, come quelle descritte all'interno di questo libro. Quindi, da un lato, vi invito a interessarvi del tema, banalmente. Se non lo conoscevate, per favore conoscetelo, perché riguarda tanti aspetti che vanno oltre la città e tanti aspetti che permettono di comprendere un po' meglio il mondo che viviamo oggi, il mondo contemporaneo. Dall'altro lato, vi invito a essere molto laboriosi e molto fiduciosi nell'affrontare queste tematiche altamente complesse. Tematiche che possono essere questa, che possono essere il cambiamento climatico, che, insomma, se passano il microfono, secondo me ne saltano fuori di parecchie. Perché almeno credo che sia molto facile in questo momento storico perdere fiducia nel lavoro svolto e nella possibilità di trovare una soluzione, e credo che sia imperativo ricordarci che questa soluzione la possiamo trovare, o perlomeno possiamo fare un lavoro efficace fino a un certo punto per riuscire a immaginarci qualcosa che non sia semplicemente quello che stiamo vivendo adesso e il modo in cui ci sta venendo raccontato il futuro. Basta così, grazie. Grazie Federico, due parole, poi lascio il microfono e la parola a chiunque voglia dire qualcosa. A me come curatore di questo festival piacerebbe molto dire che avevamo progettato il percorso nei minimi dettagli e che tutti gli incastri che tra ieri sera e oggi ci sono stati li avevamo studiati. In realtà non è per niente vero. La verità è che ci lasciamo stupire dalle cose che succedono e forse è l'antidoto migliore a quella costante e continua tensione, tentativo di cercare di calcolare tutto, che era anche uno dei cuori del tuo intervento. Ieri, chi c'era se lo ricorda, abbiamo parlato di attenzione, abbiamo cercato di capire che cos'è l'attenzione, abbiamo visto che uno dei passaggi, una delle definizioni dell'attenzione, una luce frontale che isola qualcosa da tutto il contesto e la fa risaltare. Quando tu descrivevi che cos'è una smart city, di fatto stavi descrivendo il processo per cui delle aziende mettono l'attenzione su un concetto di città e ne isolano da tutto il contesto una serie di aspetti che sono favorevoli a loro e non sono necessariamente favorevoli, ad esempio, a chi ci vive. Ad Amazon interessa moltissimo modificare un quartiere di New York a suo uso e consumo, a chi ci vive probabilmente no. E già questo è un processo di attenzione. Ieri abbiamo visto come l'attenzione, o meglio, il valore che si dà all'attenzione è al centro di preoccupazioni o di tensioni di carattere etico, politico ed economico. E anche qui abbiamo visto come etica, politica ed economia, quando parliamo di città e del modo in cui le aziende tecnologiche vogliono, cercano e stanno modificando le città in cui viviamo, agiscono e agiscono esattamente in quel modo perché il cuore del loro agire è cercare di estrarre valore e quindi dobbiamo porci delle problematiche etiche, politiche ed economiche. E anche questa sera di fatto abbiamo toccato questi aspetti. E io sono molto contento di avere messo il tuo intervento come centrale perché domani, sempre alle 9 con Valentina Bazzarin, cercheremo di capire come possiamo rovesciare quello che hai descritto oggi, cioè come possiamo progettare con i dati e con le tecnologie digitali un nostro diritto alla città, cioè che tolga le città dal dominio esclusivo delle aziende tecnologiche, dei processi estrattivi di valore e ce li faccia e riprendere in mano per costruirle a nostra misura. Tu l'hai spiegato tante volte, con l'esempio del traffico, non è necessariamente un male se calcoliamo come si distribuisce il traffico in una città con meno traffico, una città più vivibile per tutti noi, ma per farlo probabilmente dobbiamo, capire qual è il valore sociale, anche vitale che i dati hanno e che le tecnologie per processarli hanno e quali sono i modi. E qual è la posta in gioco nel rivendicarli politicamente? E quindi sono davvero molto contento che si siano creati questi incroci in modo in parte spontaneo, in parte progettato. Credo che sia, almeno per me, la cosa bella, soddisfacente di organizzare un percorso come questo. Niente, questa era la piccola riflessione che volevo portare chiudendo. Se c'è qualcuno che vuole chiacchierare con noi con la mediazione del microfono, ci teniamo a passarlo perché stiamo registrando anche per chi non era potuto venire. Io ti do il numero uno, poi me lo restituisci, che mi hanno detto tieni l'uno che hai la voce alta e te lo setto a posto. Io volevo solo aggiungere due elementi alla discussione, quindi non dare risposte, ma introdurre altri elementi. Allora, la distopia al centro della discussione stasera è la città smart, no? Le città smart city, ma c'è un'altra distopia che è già realtà e riguarda non l'esterno ma l'interno, cioè le case smart. Cioè, non so se tutti sono consapevoli, ma dispositivi tipo smart TV, impianti di sorveglianza domestica, addirittura i robottini per la pulizia del pavimento, per fare un esempio, Amazon Echo, eccetera, eccetera, insomma potrei continuare. Questo è già una manifestazione da molti sottovalutata del capitalismo della sorveglianza, cioè tutti questi dispositivi estraggono dati. Spesso vengono prodotti e venduti a un prezzo minore di quello di produzione. Questo viene giustificato dal fatto che il valore che estraggono dalla vita quotidiana, faccio un esempio, le planimetrie, cioè i robottini per la pulizia degli appartamenti, alcuni di questi sono collegati a rete e tracciano al millimetro la planimetria dell'appartamento e poi lo condividono con server remoto. Oppure il tracciamento delle abitudini dei dispositivi smart, domotica ad esempio, no? Quindi, quando una persona va a dormire, no? Come regola la temperatura, eccetera, eccetera. Allora, quindi questo è un altro tema, perché questo è un problema ancora più urgente, secondo me sottovalutato. E poi c'è l'altro aspetto che in realtà potrebbe essere anche una proposta di soluzione al problema, o comunque un approccio. Cioè diamo per scontato, mi è sembrato di capire che si dà per scontato, che questa attività estrattiva deve essere comunque a favore di un privato. Però nessuno ci impone che l'infrastruttura di estrazione dei dati, quindi la sensoristica, l'hardware, il software, l'algoritmo, no? E il dato stesso debbano essere privatizzati, mercificati. Cioè, il dato potrebbe e dovrebbe essere un bene comune, almeno il dato generato comunque dal pubblico, no? Lo stesso software può essere libero, open source, l'hardware lo stesso. Quindi, cioè, c'è un'alternativa. Entra in gioco la consapevolezza e la volontà politica. E questi sono due elementi. Non voglio dilungarmi più di questo. No, su questo punto, su quest'ultimo punto che hai evidenziato, aggiungerei un pezzo. Ovvero su sì, la sensoristica e i software, secondo me, non soltanto possono, ma dovrebbero intraprendere un percorso di resa pubblica degli strumenti. Più però il mondo diventa complesso, più diventa complesso anche progettare questo tipo di strumenti qua. E c'è un esempio che non guarda alla sensoristica, ma guarda di nuovo ad Amazon, di cui sono evidentemente parecchio appassionato, che è il perché Amazon effettivamente si becca così tante, cioè riesce a vincere su altre aziende che magari offrono un servizio simile. La capacità di Amazon, uno dei punti di vendita migliori per il suo servizio di vendita di beni, è il servizio clienti. Il servizio clienti di Amazon è fenomenale. Hanno una possibilità dal punto di vista dei capitali, e capitali non soltanto economici ma anche intellettuali, di poter formare delle persone, o perlomeno di impostare un'infrastruttura di assistenza ai clienti che è completamente imbattibile. A un certo punto, nel corso del 2018, il governo italiano ha formalizzato la possibilità da parte di Amazon di consegnare e distribuire pacchetti che erano non dedicati. Erano inizialmente destinati al circuito delle poste italiane pubbliche. E ovviamente una parte dell'opinione pubblica ha detto libero mercato, competenza produrrà, visto che le poste italiane non è che funzionino proprio da Dio. Evidentemente la concorrenza produrrà dei lati positivi. Su questo punto io ho i miei dubbi e mi collego a altro punto. Sì, la sensoristica, per esempio, dovrebbe inserirsi all'interno di un percorso di riappropriazione. Cioè, dovremmo riappropriarci della possibilità di mettere dei sensori che sono nostri. Però la domanda è quanto è davvero possibile oggigiorno progettare da zero con delle competenze che non sono organizzate all'interno di un sistema aziendale come quello di nel caso di Amazon, ma nel caso di qualunque azienda, Cisco, che magari fa strumenti di sensoristica di vario tipo. Quanto è possibile organizzarci letteralmente dal basso in una maniera che sia realmente efficace per progettare qualcosa di così tanto complesso? Quanto Poste Italiane, azienda pubblica italiana, che afferisce a 60 milioni di abitanti, può fare la concorrenza a un letteralmente l'azienda più grande, più ricca del mondo, su quel tipo di tema lì, cioè quanto la concorrenza in quel caso lì è effettivamente equa? Sì, diamo, la voglio. Magari, nel senso. No, certo. No, una serie di domande, forse un po' confuse. Perché in realtà il discorso che hai fatto è estremamente interessante, sarebbe da parlare di ogni stimolo, cioè la questione ad esempio il problema dell'infinito, nel senso che il capitalismo presuppone l'infinito e l'umano presuppone l'infinito. In fondo quello che ti ha spaventato è anche la soluzione che hai posto, perché la risposta del meteorologo è una prospettiva di infinito. E d'altronde il capitalismo è un'invenzione umana, quindi porta in qualche maniera i suoi vizi. Come la questione della città, cioè la città è la condizione del vivere umano, lo Stato forse è una parentesi nell'organizzazione del governo dell'umano. La città no, la città nasce con l'uomo e l'uomo nasce con la città, non esiste l'uomo fuori dalla città, forse qualche americano può immaginarlo, però ecco, non è un elemento che si dà. Come estremamente interessante il connubio tra uomo e macchina, quindi che forse ormai sono elementi assolutamente inscindibili, no? Esiste il mondo virtuale, il mondo reale, un po' come se fosse così un'attualizzazione di un vago dualismo platonico, che però oggi questa cosa non esiste, cioè non esiste, cioè l'uomo è macchina e la macchina è uomo, e sinceramente neanche mi spaventa, cioè anzi mi entusiasma questa prospettiva. Sono uno che non crede ma spera nelle possibilità salvifiche della tecnologia, e penso che uno dei problemi, che la prima domanda che ti vorrei fare, perché è ciò che manca a mio avviso nella discussione, è la dimensione salvifica della tecnologia intesa come possibilità di togliere l'uomo dalla maledizione che si è creato, che è il lavoro. Questo è l'elemento fondamentale, perché al netto del, come dire, del panottico virtuale che questa dimensione crea, cioè la smart city, l'elemento fondamentale è che l'estrattivismo del capitale valorizza a 360 gradi la vita, cioè messa sotto valorizzazione c'è la vita, c'è il vivere, ma c'è la vita nel senso del bios, c'è la vita umana, animale, vegetale, cioè l'estrazione è completa, non ha più nulla a che fare col lavoro, diciamo così, in maniera novecentesca intesa. In un certo senso, futuro distopico, fantascienza, il capitale non ha più bisogno del lavoro dell'uomo, in un certo senso. Però l'uomo produce ancora di più valore di quando lavorava. Quindi io vorrei soldi indietro del valore che produco, possibilmente senza lavorare, peraltro. E questo è un tema fondamentale, perché o si immagina questa, o se no ci si immagina un esercito di disoccupazione e la guerra civile, perché le questioni, quindi poi alla fine arrivano i nodi, arriveranno al pettine, e tra l'altro arriveranno al pettine anche breve rispetto alla distruzione della forza lavoro che la tecnologia prevede in giro di 20 anni negli Stati Uniti. Questa quindi è la prima questione. La seconda invece è proprio una domanda, cioè come ci inserisci la bestia, Salvini, dentro questo discorso, perché avevi detto nell'introduzione che uno degli argomenti di cui puoi parlare era proprio tecnologia e politica, quindi hai fatto un quadro molto interessante sulla gestione aziendale dei dati, se ce lo puoi un po' approfondire da un punto di vista italico nello scenario, insomma, nostro. Quindi ecco un po' queste due suggestioni. Dunque, parto dalla prima, semplicemente perché è più coincisa ed non è una risposta. È un'altra cosa mi è venuta in mente, visto che si chiama Che fare, terzo problema, Lenin a Londra, cioè nel senso, lì dove si dà la massima valorizzazione si dà anche la massima forma della resistenza. Quale? Punto di domanda. No, da un punto di vista dell'utilizzo degli strumenti tecnologici, no? Perché poi uno potrebbe anche dire l'algoritmo siamo noi. Quindi la capacità è come, cioè siamo noi che forniamo, quindi c'è un problema. Allora, sulla prima domanda, sulla prima osservazione, secondo me, cioè, la carne al fuoco è ancora di più, sono d'accordo con te manca quel pezzo, credo però che il ragionamento che suggerisco sia un pezzo introduttivo al discorso che giustamente sottolineato manca. Ovvero, banalmente, sulla questione del... il valore dei miei dati è maggiore rispetto all'output produttivo che io faccio con il mio lavoro reale, manuale in un certo senso. Questa cosa è vera, dopodiché, per esempio, la distopia di Jobstown, quella di Apple. Io, se voglio vivere in quella città perfetta dove tutto mi è servito, il racconto spiega, io entro come cittadino e io cedo fondamentalmente la mia identità digitale, informazionale, a Apple, la quale mi dice, se tu mi cedi tutto, io ti do tutto, non ti preoccupare. Quindi il valore, in quel caso lì, della mia identità informazionale, è restituito in termini di servizi. Allora, ti do da dormire, ti do il mangiare, ti do il divertimento, eccetera, eccetera, eccetera. Quel discorso di la mia identità informazionale ha un certo valore in termini di servizi c'è già in parte, in maniera spesso distorta, cioè Facebook, l'utilizzo di Facebook è questo, io cedo inconsapevolmente la mia identità informazionale e ottengo un servizio, che è un ottimo servizio, parliamoci chiaro, con mille problemi, ma è una cosa senza precedenti, in positivo secondo me, con anche lì una discussione da aprire mica da poco. Per me sarebbe interessante capire, ma in che modo io voglio vedermi questo valore restituito? Nel senso che io per esempio in questo momento senza di pancia ti direi no, io non voglio semplicemente servizi, preferirei non avere nessun servizio garantito ma vorrei avere la pecunia in mano banalmente, perché mi sento più libero in un certo senso. Quindi per me la questione è, prima di poter fare quel discorso che è indispensabile, è necessario che ci sia una discussione condivisa e consapevole dei meccanismi estrattivi, perché altrimenti non mi rendo conto dove già sto facendo lavoro invisibile, in un certo senso, che viene già valorizzato e che io già incarno. Cioè, tecnicamente, se dovessi fare la somma del valore che hanno tutte le mie identità informazionali nel mondo virtuale, probabilmente mi pagherei l'affitto per un paio d'anni a Milano senza grossi problemi, se semplicemente chiedessi l'obolo una volta a tutte le aziende. Però per farlo bisogna che un sacco di persone la pensino come me, e poi andiamo tutti insieme in Unione Europea e diciamo: ragazzi, chiediamo quest'obolo così mi pago l'affitto. Quindi questo è il punto uno. Poi allora, su politica Salvini, la domanda riguarda, potreste approfondire, cioè puoi dire due parole su quel sistema lì? Ok. E allora, sappiamo tutti cos'è la cosiddetta bestia? Sì, no? Allora, facciamo così, chi non lo sa alzi la mano. Ok. Allora, la bestia è il nome che non è stato dato, il team di comunicazione di Salvini ha consegnato un nome al proprio sistema, fondamentalmente questo nome è la bestia, perché è un sistema che apparentemente nell'ultimo periodo, in particolare nel periodo di grande ascesa di consenso di Salvini, è stato in grado di cavalcare puntualmente e con coincidenza quasi appunto spaventosa una serie di questioni del dibattito pubblico, e sempre con abilità da schermidore, quasi riuscire a beccare il punto perfetto nel momento perfetto. Quel sistema è senza precedenti in Italia, almeno nella narrazione politica italiana moderna, nella misura in cui tutti i politici fanno la comunicazione online, tutti hanno più o meno un piano, nessuno si era mai azzardato, e in questo caso Salvini ha fatto un'ottima mossa comunicativa, o Morisi, o chi per lui, Morisi, social media manager, il capo del team comunicazione di Salvini, hanno dato un nome a questo sistema, hanno in un certo senso dato un'incarnazione a questa cosa che effettivamente è talmente efficace da sembrare surreale in un certo senso. Per me però è importante, in quel caso lì, slegarla dalle questioni. Allora, sì, quel sistema è un sistema di comunicazione e propaganda politica, all'atto pratico, questo è indubbio. Però quel sistema di comunicazione e propaganda politica, non ha granché di diverso dal funzionamento dei sistemi di comunicazione che oggi si consumano all'interno delle realtà virtuali tipo gli ecosistemi social. Perché se io devo risultare efficace come lo è Salvini nel comunicare un prodotto qualsiasi di un brand qualsiasi, tipo i Nutella Biscuits, che sono stati un caso eclatante perché per un mese di quello si parlava, ragazzi, punto e stop. Però le tecniche sono più o meno le stesse, cioè essere in grado di capitalizzare in maniera efficace l'attenzione delle persone, a questo punto mi ricollego evidentemente all'incontro di ieri, facendo leva su, diciamo, i punti sensibili degli strumenti che ci sono già a disposizione. Ci sono delle piazze conclamate che le persone utilizzano, Facebook è la più nota perché e ospita ad oggi oltre 2 miliardi di persone connesse sulla stessa piattaforma. Già questo fatto andrebbe discusso per ore, che c'è un posto virtuale dove io posso pubblicare qualcosa e potenzialmente può essere visto da un terzo della popolazione umana, lì così com'è. E la questione sta nel capire, ok, in che modo viene decisa la visibilità su quella piattaforma, stesso discorso di Google, come faccio salire in alto il mio sito web nella lista dei risultati, e in che modo io con la minor spesa possibile posso salire in cima a quel tipo di classifica, fondamentalmente, perché di questo si tratta. anche Facebook, un po' come Google, non ti mostra tutti i contenuti che vengono pubblicati, ma come sappiamo, come non sappiamo, ne mostra una selezione decisa arbitrariamente da un algoritmo in parte pubblico, in parte segreto. Però credo che sia necessario parlarne in termini di comunicazione e di marketing, e non necessariamente, o perlomeno non principalmente in termini di comunicazione politica, perché nel caso di Salvini, ma nel caso di tantissimi politici cosiddetti populisti, di movimenti cosiddetti populisti, si parla prima di tutto di una colonizzazione degli spazi di attenzione, prima ancora che della colonizzazione di spazi politici o sociali. Cioè, dove tira il vento, l'importante è che io stia lì. Poi, chiaro, un sistema valoriale c'è che viene veicolato in maniera un po' maldestra, però se dovessi dire 5 parole per descrivere Salvini alla Lega Nord, potrei buttarle fuori. Però tendenzialmente la questione è in che modo io finisco più in alto. Esempio stupidissimo, ma proprio che secondo me risolve la mia risposta, proprio nella settimana dei Nutella Biscuits, Salvini si mette a parlare di Nutella Biscuits, mannaggia. Salvini e Nutella Biscuits non hanno nulla a che fare tra di loro, i Nutella Biscuits, nemmeno se ci impegniamo, hanno qualcosa a che fare con la politica. Cioè, possiamo forse pensare, cos'è, Ferrero, corretto, e come tra... parliamone, però dai, onestamente non hanno nulla a che fare con la politica. La questione però è che Salvini parlava di Nutella Biscuits e twittava di Nutella Biscuits perché in un certo senso l'algoritmo secretato, anche in quel caso lì un po' incarnato perché diventa quasi questa entità non visibile che quasi respira perché reagisce in maniera quasi organica a determinati input esterni, avrebbe dovuto reagire positivamente al fatto che Salvini, in quel caso lì, si stava occupando di un tema che era già sulla cresta dell'onda. Quindi stava, e questo è il punto di comunicazione, stava con il suo team progettando dei contenuti di comunicazione, i post, i video, eccetera, che erano pensati sin dall'inizio per afferire ad un argomento che era già sulla cresta dell'onda. E la piattaforma è felice di questa cosa perché se il tema afferisce già a un tema che è sulla cresta dell'onda, lo spettatore guarda più a lungo quel contenuto, è maggiormente interessato perché parla di Nutella Biscuits, della settimana di Nutella Biscuits, e infine, e questa è l'unica cosa che interessa la piattaforma, lo spettatore ha più probabilità di vedere o di cliccare su una pubblicità venduta dalla piattaforma stessa. L'intuizione banale ma non troppo di Morisi è stata questa, cioè dare in pasto a Facebook, a Twitter, ad Instagram, eccetera, quello che loro chiedono. Loro ti dicono: noi lavoriamo in maniera molto cristallina, vendiamo pubblicità. Se tu mi aiuti ad assolvere questo compito, sono completamente a tua disposizione. Il caso di Cambridge Analytica è chiarissimo in questo senso. Sono una lunga lista di casi di abuso e anche di non intervento su questioni politiche che delineano proprio un profilo di Facebook che fino a quando proprio non gli punti il dito davanti dice: guarda, io preferisco l'omertà se mi aiuti a vendere le pubblicità. Fine seconda domanda. Sulla terza, che è complessa, nel senso che ci sono dei limiti per me di competenze, ma proprio anche di conoscenze che non ho, dal punto di vista nozionistico, come posso sfruttare lo strumento in un certo senso? Ammazza. La mia risposta di pancia, che però rimane di pancia, nel senso che non l'approfondisco perché non mi sento di averne troppo le competenze, e perlomeno non l'approfondisco con il microfono in mano, è che in questo momento lo strumento è eccessivamente corrotto. Nel senso che, faccio un esempio banale, se io sono tutto incarognito per una questione che capita nel mio quartiere o a Milano, banalmente, dico Milano perché vivo lì, non so se i social network sono lo strumento migliore per creare una massa critica efficace sul lungo periodo. Forse è il caso di praticare un po' di più quella pratica che adesso con le primarie americane sta diventando tipo fortunatamente la nuova grande moda dei giovani che stanno entrando in politica. Io entrando nel senso che stanno entrando in contatto con la politica, e io sono uno di quelli, dove tutti parlano del canvassing, di andare in giro a convincere la gente ad andare a votare alle primarie per qualcuno, parlandoci letteralmente, che è tipo la cosa più vecchia del mondo. Improvvisamente però la chiami in maniera leggermente più nuova e ci dai una serie di crismi, anche forse solamente una serie di linee guida, è una cosa vecchia, diventa nuova e si aggiorna al contemporaneo, perché il canvassing dal vivo era di oggi la notizia che in New Hampshire c'erano delle ragazze che a cavallo andavano a fare canvassing nel New Hampshire rurale per beccare quelli che abitano nelle comunità estremamente remote. Fare quella cosa lì in questo momento secondo me ha più valore di passare un pomeriggio a progettare la sponsorizzazione giusta su Facebook, perché dall'altra parte c'è Morisi, che incarna quell'altra fazione, che testa la gioco un po' più semplice, ti dice, a me non interessa parlare di politica, io sto parlando di visibilità del mio contenuto. Alla politica ci pensa Matteo Salvini, che sarà in grado di fare il suo show. Io, il mio compito è far sedere in cima a lui, davanti a tutti. Quindi proverei a non utilizzare lo strumento, non perché non si possa usare, ma perché magari di rifiutarlo per un secondo, lo strumento tecnologico ti fa scoprire delle cose più interessanti che possiamo poi riportare allo strumento tecnologico. E ok, allora, di nuovo, tutti sappiamo che cos'è Rousseau? Chi non sa che cos'è Rousseau? Fantastico. Se vi dico Rousseau e privacy e Casaleggio, queste tre parole sono più o meno chiare a tutti? Cioè, perfetto. Ok, quindi Rousseau è il sistema operativo del Movimento 5 Stelle, un sistema di voto, prima di tutto un sistema di voto elettronico interno, il quale è sviluppato dalla Casaleggio Associati per il Movimento 5 Stelle. È un sistema che fa qualcosa di importantissimo, ovvero regola il processo democratico all'interno di quello che ora non più, ma era uno dei più grossi movimenti, una delle più grosse, anzi, per un periodo è stata la più grande coalizione politica del paese. E questo strumento funziona male, pesantemente pieno di falle, permette prima di tutto no, il voto che viene effettuato all'interno di questa piattaforma non è segreto. Chi amministra la piattaforma può conoscere l'origine del voto, e questa cosa già, insomma, ci suggerisce una serie di problemi profondamente di democrazia profonda, nel senso di messa in discussione del principio democratico stesso, di cui dovremmo parlare. Cosa ne penso di Rousseau? Quello è il caso forse opposto a Morisi. Come strumento tecnologico funziona malissimo, ed era utilizzato pochissimo all'atto pratico, cioè pochissime persone utilizzavano Rousseau per votare. I numeri, i numeri pratici, proprio quelli brutti, non le percentuali. Poche persone lo utilizzavano, il Movimento 5 Stelle non è riuscito a promuoverlo, però c'era un'altra questione, ovvero che quelle poche persone, adesso farò un numero a caso, se 100 persone votavano un provvedimento e dicevano il Movimento 5 Stelle deve votare rosso anziché blu, l'intero Movimento 5 Stelle, diamine, prendeva in fede quella percentuale di votiamo rosso che emergeva dal voto di 100 persone, magari, quindi in nessun modo da una rappresentanza anche solo democratica interna al Movimento 5 Stelle. E quello anche lì, secondo me, afferisce a un discorso di divulgazione sulle pratiche statistiche. Cioè, se fosse un pochino più immediato il ponte che collega il 51% non significa necessariamente tutti, la maggioranza, scusami, ma dovrei almeno per un secondo chiedermi, ma il 51% in numeri reali quant'è? Mi permetterebbe, da un lato, di magari tirare un respiro di sollievo e dire ok, aspetta, intanto stiamo parlando di numeri diversi da quelli di cui mi aspettavo, e in secondo luogo di operare critiche un pochettino più puntuali, nel senso che appunto anche in quel caso lì c'era un gran clamore sulle questioni di privacy, dure pure, clamore giustissimo, però a mio parere sarebbe stato molto più utile mettere seriamente in discussione il percorso attraverso cui Casaleggio Associati, che afferisce direttamente al Movimento 5 Stelle, abbia potuto anche solamente sviluppare, metti caso anche avesse funzionato benissimo, però è quello il problema. Fortunatamente lo usavano in pochi, ha prodotto delle decisioni, però certo, ma infatti per me prima di tutto, ancora prima che discutere però del problema tecnologico, ovvero il sistema era osservabile dall'interno da Casaleggio Associati, semplificherei e direi, ma perché Casaleggio Associati, perché nessuno ha rifiutato l'utilizzo di quel sistema? Cioè ha detto, ragazzi, no, non potete usarlo, punto. Cioè non accetteremo decisioni prese in quel modo, banalmente. Poi, chiaro, parliamone del... Cioè, un sistema del genere, secondo me, non è, il voto non può essere elettronico, per quanto mi riguarda, non è fattibile. Però possiamo poi parlarne della fattibilità tecnologica. Però prima di tutto cerchiamo di capire, di nuovo, il discorso che facevo anche prima, chi sviluppa le tecnologie che vengono utilizzate, che possono avere scopi apparentemente benigni, perché il sistema operativo 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle aveva delle ottime intenzioni, voleva riconsegnare la democrazia diretta, eccetera, eccetera. Poi ha funzionato male. Però, insomma, già dall'inizio che c'era un problema di iniziale. Da quel punto di vista, sì. Va bene. Ci sono altre domande, osservazioni? Se no, birra, giustamente. Noi in realtà siamo qui, concludiamo questa serata, ma ci fermiamo appunto ancora a chiacchierare con voi. Entro in modalità piazzista, abbiamo una selezione di libri veramente completa su tutti i temi che tratteremo in queste tre serate. 10% di sconto se li comprate qui, li pagate al bar, e se volete consigli ve li diamo molto volentieri, l'abbiamo fatto anche ieri con profitto, ma giustamente sosteniamo anche economicamente chi ha fatto lo sforzo per averci qui a parlare con voi, e quindi vi ringrazio, ringrazio loro, ringrazio voi che siete venuti questa sera ad ascoltarci, e niente, vi do appuntamento domani alle 21 con Valentina Bazzarin, progettare con i dati il diritto digitale alle città. Alle 16 invece Lorenzo Ceccarelli e Andrea Coccia tengono un workshop che si intitola Il ciclo di vita della notizia digitale. Credo che ci siano ancora una decina di posti, ci si iscrive, costa 20 euro, se volete partecipare cercate su Facebook, sui siti, trovate l'email per partecipare. Grazie ancora a tutti e a tutti, buona serata.